È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Che ieri alla Camera Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, cantasse questa canzone. Sta diventando una storia vera. Lo scopriremo solo vivendo cosa sarà il terzo polo. Forse la rinascita di una nuova DC? Chissà. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, Radio 24. 349-238-6666 per i vostri messaggi. La Zanzara è radio24.it. Paolo Cirino Pomicino, buonasera. Buonasera a voi e ai radioascoltatori. Come sta? Dalla sua casa al mare, dove si trova? Io mi trovo in questo momento in Sardegna. Ah, in Sardegna. Sono arrivato da qualche giorno e spero di rimanere un paio di settimane. Eh beh, certo, ogni tanto bisogna concedersi qualcosa, no? Certo. Senta, il terzo polo, che cos'è questo terzo polo? Intanto si sta votando, anzi ancora no, ci sono le dichiarazioni di voto in una giornata molto calda che secondo me poi finirà con nulla di fatto, anche se poi qualcuno ha detto se Berlusconi non raggiunge 316 voti dovrebbe riferire al capo dello Stato. Ma al di là di questo, vorrei un parere da lei sul terzo polo. Ma per capire che cos'è il terzo polo, bisogna già dire che cosa sono state le sciocchezze dette in questi ultimi 15 anni sul cosiddetto bipolarismo. E vabbè, non la prenda da lontano, però secondo lei... No, non la prendo da lontano, ma se non si capisce che in realtà avevano messo le pere con le mele sia il governo Prodi, sia, io devo dire, anche il partito del Predellino, perché si è immaginato in Italia di aver trovato il santo graal della politica, per cui mentre in tutta Europa... È vero, le società nazionali si dividevano in socialisti, democristiani, liberali, ambientalisti, da noi erano berlusconiani o partiti democratici genericamente intesi. Ho capito. Secondo lei dunque ci vuole questo terzo polo che ricorda questo terzo polo significa questa novità. Che hanno convenuto su un atteggiamento parlamentare, è troppo poco per definire un terzo polo, è però un inizio di un percorso. Senta, però Pomicino, mi scusi, i radioascoltatori vorranno sapere, vabbè, ma insomma, che cosa c'è dietro l'angolo? Certo. Di questa invece, ecco, ci sono due opzioni semplici, banali, perché poi la politica è molto più semplice di quando la si voglia E quali sarebbero queste opzioni? Ecco, e cioè le due opzioni sono: o Berlusconi capisce che c'è bisogno di fare una crisi di governo dopo aver fatto un accordo con Bossi, Casini, Fini e Rutelli, e quindi fa una nuova maggioranza diversa da quella che si è presentata alle elezioni, non c'è dubbio che non avrà assolutamente la maggioranza all'interno della Camera, perché finirebbe per rubare un senatore di qua, un deputato di là. La famosa campagna acquisti. Però, senta, una cosa sola, Pomicino, le sue previsioni, lei insomma un vecchio volpone della politica. Vecchio sì, volpone no. Vabbè, insomma, volpone nel senso buono, nel senso grande conoscitore, eccetera. Tra quanto si vota? Ma io ho l'impressione che, almeno dai segnali fin qui avuti, che prevale la pancia. E prevalendo la pancia si rischia di andare a votare o a ottobre-novembre o massimo a marzo. Credo che peraltro giochino in questa direzione anche tutta una serie di considerazioni che il presidente Berlusconi può fare, cioè? Legittimamente. Beh, tenga presente che il Parlamento attuale non è quello che eleggerà il Presidente della Repubblica. Perché arriverà fino al 2013. Sì, si potrebbe fare come l'altra volta, potrebbe votarlo. No, il nuovo, è vero, il nuovo lo voterà, certo, il nuovo Parlamento. Quindi il nuovo è il nuovo. Allora, anche questo potrebbe essere. E un'altra considerazione? Prego? E un'altra considerazione quale potrebbe essere? No, l'altra considerazione è che invece il paese ha bisogno di grandi di un governo stabile e capace di governare. Io ho visto anche l'intervista oggi vostra del Sole 24 Ore al Ministro dell'Economia, il quale ci dovrebbe spiegare, anche perché il professore ci dovrebbe spiegare com'è che l'Italia da 10 anni non cresce. Beh, insomma, se non ce lo spiega lui, però il Ministro vicino, dell'Economia da 8 anni interrottamente, beh, diventa difficile. Senta, allora, però, innanzi a questo, però, io non do mai la responsabilità su una sola persona, no, certo, è la squadra deve funzionare. Senta, Pomicino, però insomma, mi viene a chiederle qualche cosa. Lei non vede non vede male la nascita di un terzo polo? Qualche piccola critica a Tremonti, eppure lei è consulente del ministro Rotondi, come la mettiamo? Vabbè, no, lei si tiene le mani libere. Io non sono consulente di nessuno, io sono soltanto a titolo gratuito presidente del comitato di controllo delle amministrazioni centrali dello Stato. Vabbè, comunque in ogni caso collabora. Abbiamo segnalato una serie di difficoltà, ma interna corporis, perché sono un organo. Come collabora col ministro Rotondi, insomma, in qualche modo. Beh, collabora con la Presidente del Consiglio e quindi col ministro Rotondi, ma in questo senso qua non è che sono un consigliere del ministro Rotondi. Ho una mia autonomia nel registrare e trasferire al governo i guasti. Senta, ma che ci fanno insieme? Scusi un attimo, Pomicino, ho capito. Che ci fanno insieme Fini, Casini, Rutelli e Lombardo? Sembra un po' un'armata Brancaleone, o no? Beh, sì, io questo l'ho detto questa mattina sul Libero. Lombardo è democristiano, è democristiano, Rutelli. Nell'API ci sono i democristiani e solo Fini avrebbe una identità totalmente diversa. Fini, tra l'altro, è un po' Fini è laicista e Rutelli è papista, come la mettiamo? Sì, ma non è questo, vedi? Non è questo quando il punto. Quando ci sono più partiti, ascolti, perché o c'è il partito unico come il pensiero unico, loro tutti in fila per due e ci sono i capoclasse. Diversamente, la politica, quando ha diverse opzioni politiche, come in tutti i parlamenti del mondo, finiscono per avere un compromesso nell'arte di governo e poi ciascun partito ha una sua. Senta, ma Fini e Rutelli si scannavano fino all'anno scorso, nel 93 sono stati avversari. Vabbè, dice tutto si supera, tutto si supera. Ma anche Bossi fece il ribaltone e poi invece si alleò nel 94, quindi come dire, il fatto ognuno... che Fini e Rutelli siano stati grandi avversari per lei, insomma, non è questo il punto. Ma non è questo, perché oggi sono molto più vicini. Ma oggi sono più vicini dinanzi a un tema vero, che è il tema della involuzione democratica del paese, e qui nessuno può stagliare le... Però bisogna cambiare la legge elettorale, non so se si arriverà a cambiare la legge elettorale. Pure la legge elettorale. Traffico 18:15 800 24 00 24, un attimo solo alla Camera, sta parlando Cicchitto. Politica. Poi certo, dopo 20 anni la sentenza anticipata viene sostituita dalla sentenza giudiziaria e magari la prima viene annullata. Ma chi restituisce a Rino Formica, a Calogero Mannino e a tanti altri gli anni vissuti sotto l'onta e l'angoscia della sentenza mediatica? Ecco, il sottosegretario Caliendo è vittima di una procedura di questo tipo, senza nemmeno... Pomicino, se lei fosse alla Camera, la voterebbe la sfiducia oppure no? Io avrei fatto una pressione per Caliendo come... perché Caliendo si dimettesse, così facemmo tutti noi all'epoca. Pomicino, lei dice che si dovrebbe dimettere Caliendo? Certo, non c'è dubbio, ma tutti lo facevano, al di là del passato, al di là del passato, ho capito, però c'è una linea di fondo, quindi è ovvio che le cose vanno in difficoltà perché non c'è una sensibilità politica di opportunità, ragione Cicchitto, mica può essere una sentenza... Appunto, dunque dovrebbe rimanere al suo posto o no? No. No, l'opportunità politica è totalmente diversa vabbè, da quella che... Abbiamo scoperto un Pomicino un po'... Una sentenza. Un Pomicino... Non ci può essere. Caliendo è una persona per bene e probabilmente sarà ritenuto estraneo a qualunque cosa. E allora non si dovrebbe dimettere, o no? Detto questo, però, c'è l'opportunità politica di non continuare a rimanere nell'ambito di un ruolo di governo. Ho capito. Abbiamo mantenuto per 6 mesi l'onorevole Cosentino, che aveva un mandato di cattura per la selezione camorristica all'interno del governo, ma mi sembra che siamo l'unico paese nell'Europa occidentale che ha avuto un elemento di questo tipo. Ho capito, traffico, devo dare il traffico. La Zanzara. Con questa pioggia nei capelli, perché lo fai? Con questi occhi un po' fanciulli, un po' marinai, per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Con le tue mani da violino, perché lo fai? Tu che sei rosa di giardino dentro di me. Telese dalla camera! Abbiamo ricevuto un richiamo istituzionale. Cioè, in che senso? Ieri notte, mentre sì, rincasava, sì, il portavoce del presidente della Camera ha sentito il nostro fraseggiare irriguardoso sulla casa di Monte Carlo. E che cosa ha riferito? Che cosa ti ha riferito? Ci ha fatto una voi della zanzara, bravi, bravi. Perché lo fai, Alfano, perché lo fai? Per una dose. Senti, ma qua c'è stata la rissa, la mia teoria sulle risse parlamentari, che sono sempre un annuncio. Ma una mini rissa, una mini rissa. Che rissa c'è stata? Ma mica mini rissa, bella, poi misteriosa. Scriverò un pezzo che si è già balcanizzato l'emiciclo, nel senso, è nato il gruppo dei Finiani. Scusa, sta succedendo qualcosa, un attimo solo, aspetta. Ho chiesto di parlare all'onorevole Bernardini. Per 2 minuti, onorevole, prego. Alla fine dell'intervento di Cicchitto è successo qualcosa, non ho capito bene cosa. Che è successo, Luca, allora? La mini rissa, quando è stata? Aspetta, sentiamo la Bernardini, perché sì, presunto anch'io sono qua, mi sono... Cosa stanno dicendo, Luca? Anch'io non lo sento bene, perché sono uscito e lo sto vedendo al circuito interno. Perché Cicchitto ha detto dal PDL non darà la testa di Caliendo, poi ha terminato il discorso, sì, in un certo modo. Lo scalpo di Caliendo. Sì. Allora... Dicevi? Dicevo che sono seduti, poi interrompiamo al volo se cade qualcosa, ancora fra di loro i Finiani e gli ex Nini Pidiellini. Ah sì, Peppino Calderisi è il protagonista di questa vicenda, se non sbaglio. Creato un ingorgo per cui a un certo punto Martinelli, ex uomo di fiducia ai Fini, ha strappato, pensa tu, la tessera di Raisi, il suo vicino di banco, l'ha tirata in faccia a Di Biagio e ha detto, e a questo punto Di Biagio gli è corso addosso che lo voleva menare, sta salendo a fianco a Fini Granata che sta parlando nell'orecchio. Lo vedo. Presidente Gianfranco Fini stenta a riprendere il bandolo dalla matassa perché è entrato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la PDL. Ah, era Silvio, era il coro di prima, mi sa, Telese. Luca, era Silvio, perché è entrato Berlusconi. È un'occasione. Noi consigliamo, le consigliamo, signor Presidente. Ma insomma, al di là della mia... Insomma, mentre accadeva questo... E c'è stato questo scontro fra ex camerati con Martinelli che ha detto: Raisi, se tu oggi voti come dici che voterai, vicino a me non ti puoi più sedere. Fantastico. E c'è stata una mezza collutazione, ovviamente, che poi si è ricondotta con i commessi, i caschi blu, però ti dai il senso della spaccatura che di nuovo è diventata umana, antropologica, persone che erano amiche fino a un giorno prima che rompono. Soprattutto perché c'è questa storia incredibile dei rappresentanti del governo, come Ronchi, per esempio, che non voteranno la sfiducia, dunque voteranno contro l'indicazione del loro nuovo gruppo parlamentare. Pare che siano però in dieci. Autorizzati, quindi sì, ma è un, si gioca a zona e è uomo. Sì, poi devi ammettere, Luca, che è una tattica. L'esordio del gruppo Futuro e Libertà dal punto di vista parlamentare non è granché. No, no. Siccome ci sentono le massime istituzioni, io devo dirti che Futuro e Libertà sono eroici. Come sono eroici? Solo perché Alfano, solo perché Lamoroni perché Lamoroni, che forse si sposta nel gruppo di Futuro Libertà, potrebbe accadere. Sì, è vero, è vero. Chiara Moroni, sì, è vero. Un personaggio eroico, cioè ci va perché ci crede, non è che guadagna nulla. No, ma io su questo non c'è dubbio. Abbiamo in collegamento Pomicino, caro Telesi, il quale pochi istanti fa ci ha detto che se fosse lui, devo dire, sono anche abbastanza sorpreso dopo tutto quello che ha passato come uomo politico. Insomma, ha detto pochi istanti fa che fosse per lui Caliendo si dovrebbe dimettere. Cioè, Caliendo si dovrebbe dimettere. Ma per un problema di opportunità politica. Per opportunità politica, hai capito, Telese? Guarda, il ragionamento che ha fatto Di Pietro, ti voglio fare inorridire. No, Di Pietro ha detto una follia, te la faccio ascoltare tra poco, come al solito. Dice Caliendo si occupa delle intercettazioni. E allora? È un provvedimento che lo agevola, è in conflitto di interessi. Ecco Lamoroni. Sentiamo, Chiara Moroni. Perfettamente garantista. Negli anni di Tangentopoli mio padre, raggiunto da due avvisi di garanzia per un finanziamento illecito al PSI, ritenne di doversi togliere la vita. Gesto estremo per gridare la sua innocenza in un clima da pogrom. Non posso tollerare che la battaglia garantista venga confusa con il giustificazionismo o, peggio ancora, con l'impunità. Non posso tollerare altrettanto nessuna forma di giustizialismo. Penso che il dibattito sul caso del sottosegretario Caliendo si stia svolgendo su un piano sbagliato. Non è un problema giudiziario né di scontro fra garantismo e giustizialismo. È un problema di opportunità politica, di compatibilità fra il suo incarico istituzionale e i suoi comportamenti. È un problema di responsabilità e di etica personale e pubblica. Ne deve rispondere all'opinione pubblica prima ancora che all'autorità giudiziaria. La mia è una storia personale, familiare e politica che coincide integralmente con la battaglia garantista. E proprio per questo credo che niente abbia a che vedere il garantismo con quello di cui stiamo discutendo qui oggi. Lo ripeto, è l'opportunità politica che dovrebbe suggerire un passo indietro per difendersi meglio, pienamente tutelato dalle garanzie democratiche che non ebbe mio padre nel 92. Non credo che sia attraverso una mozione parlamentare che bisogna arrivare a questo ed è per questo che non parteciperò al voto. Credo invece che debba essere il frutto di un'etica pubblica diversa da quella che vediamo oggi. Grazie, onorevole Moroni. Beh, Luca, questo cosa vuol dire? Che non parteciperà al voto, però non ha annunciato l'entrata nel gruppo Futuro e Libertà. No, però è un passo, diciamo, no? Magari lo annuncerà poi, comunque non partecipa al voto e si dissocia dalla maggioranza. E le previsioni quali sono? Le previsioni, tutti sono convinti che il governo passerà, anche perché ovviamente con il voto di astensione dal punto di vista della battaglia parlamentare, sapete che al Senato corrisponde a un no, invece qui diventa veramente un voto neutro. Però qualunque, sai, gli assenti, nessuno di noi sa chi c'è. Oggi Landolfi ha detto: se non si arriva a 316, Berlusconi va al Quirinale. Dovrebbe andare al Quirinale. È un'ipotesi plausibile? È un'ipotesi possibile perché Berlusconi continuamente escono indiscrezioni veicolate sul fatto che lui è pronto a strappare stasera. Pomicino, ha sentito la Moroni? Condivide, immagino, dopo quello che ci ha detto. Ho sentito la Moroni, infatti, in diretta. Ma le devo dire una cosa molto banale e semplice, ha ragione lei a parlare, come ho detto prima, di opportunità politica, ma faccio una domanda terra a terra, ma è così complicato allontanarsi dal governo per 4 mesi? O è essenziale il Caliendo? Insomma, ma questo lo dico a sua tutela, perché l'urlo del garantismo essenziale per un paese come il nostro deve essere testimoniato anche dalla presa d'atto di andare via dal governo o dagli incarichi, fermo restando che resta deputato, per difendersi meglio. Ma quello perché? Perché ha frequentato dei faccendieri, perché ha frequentato degli imprenditori? Qual è il punto? Io ancora non l'ho capito. Il problema è di aver un attimo fatto una riunione, da come si legge dai giornali, una riunione con Flavio Carboni, che certo non è una persona non nota all'autorità giudiziaria e alla storia di questa Repubblica in termini negativi. Se quando si stava lì, conosciuto che c'era Flavio Carboni, ci si alzava e se ne andava, era tutto diverso. Però, voglio dire, al di là del merito della questione, ma qual è questo tema per il quale bisogna fare un dibattito parlamentare in una mozione? Beh, ma la questione è politica, Pomicino, lei lo capisce bene. È una questione politica. Non mi sembra che sia che il governo crolli se Caliendo per 4 mesi... Intanto è stata respinta la mozione di sfiducia a Caliendo, questo viene annunciato, 18:28, ma era ampiamente prevedibile, fra poco sentiremo i numeri. Direi Luca? Mentre parlavate, sì. C'è stato un boato, perché tu avevi appena detto qual era il numero che molti si aspettavano, è andato a 2,99 il governo. 2,99. Quindi un segnale di forte debolezza, probabilmente dovuto ancora più che giochi da paesi alle assenze. Sì, c'erano molti assenti. Però è una cosa che conta, perché se... la forza parlamentare del governo è inferiore alla sua forza sulla carta, è un altro dato che Certo, certo. 2,99, c'erano molti assenti. Ci sentiamo tra qualche istante dopo la borsa. 800 24 00 24. La Zanzara. Eccoci qui, 18.31, 800 24 00 24, dopo il voto della Camera, dunque respinta la mozione di sfiducia nei confronti di Caliendo, 299 voti, una quota, ci raccontava prima Telese, forse più bassa rispetto alle aspettative del governo, ma bisogna considerare anche gli assenti. Valerio, provincia di Messina, buonasera. Buonasera, dica. Senta, io voglio chiamare per... dire tutta la mia perplessità sulla situazione politica italiana. Innanzitutto la colpa maggiore ce l'abbiamo noi cittadini italiani, che da circa 2 anni assistiamo a questo, chiamiamolo bordello per essere gentili, perché io penso una cosa, che la gente, soprattutto noi del sud, parliamo, non voglio essere fazioso, però parlo per nome di quelli del sud, viviamo in una condizione economica difficilissima. Sì. Salari bassissimi, protezione sociale inesistente, però nonostante tutto ciò da 2 anni dobbiamo assistere a discussioni come intercettazioni, come processo breve e tante altre fesserie che a noi non interessano. Sì, senta Valerio, la discussione politica non è incentrata solamente su questi temi, abbia pazienza. Sì, però la discussione politica innanzitutto non so come si possa appoggiare un governo che non pensi ai cittadini italiani. Secondo lei questo governo non si occupa dei problemi degli italiani? Ho capito. Mi sembra una valutazione un po' generica, francamente. Comunque. Questo governo, io penso che fino ad ora, da circa da 20 anni a questa parte, per parlare in generale, nessun governo si sia occupato dei cittadini italiani. Va bene. Poi però, che cosa significa occuparsi dei cittadini italiani in generale? Bisognerebbe entrare nello specifico, sì. Come fanno negli altri paesi, come Francia e Germania. Sì. Dove la gente viene assistita economicamente, dove si dà il lavoro ai giovani e tutto questo e tutto il resto. Ecco, io vedo che qua le discussioni sono su altri temi che non c'entrano. Sì, Valerio, però non è che il governo dà lavoro ai giovani, magari crea i presupposti per avere più lavoro e per favorire le condizioni attraverso le quali poi si ottengono nuovi posti di lavoro. La ringrazio. Antonio da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo riferirmi alla conversazione che avete avuto con l'onorevole Serracchiani ieri, perché era davvero molto eloquente. Quando lei la incalzava dicendo come mai l'opposizione non richiede le elezioni anticipate, quando dovrebbe essere una delle prime cose che pensa un'opposizione che fa il suo mestiere, e invece le elezioni le richiede il Presidente del Consiglio. Qui sta tipo... tutta la difficoltà di interpretazione del momento. Mi rendo conto che infilarsi nel tecnicismo della legge elettorale che giustifica una scelta tattica non è radiofonicamente spendibile, anche se Bersani insiste che bisogna prima cambiare questa legge, ma noi abbiamo un sistema dove la lista che prende un voto più degli altri prende tutto, fa capotto. Quindi anche se nasce un terzo polo, anche se Casini non prende più il 7%, ma il 12%, il 15%... È uguale. Può cambiare qualcosa al Senato. Niente. Beh, cambia qualcosa al Senato. Il 45% della... Sì, Antonio, potrebbe cambiare qualcosa al Senato, perché al Senato lei sa che c'è il premio di maggioranza regionale un po' diverso. Ma comunque, al di là di questi tecnicismi, certo, senza cambiare la legge elettorale, anche un terzo polo può fare poco. Però, scusi, da una parte... c'è chi dice, chi potrebbe dire, ragioni in astratto, come il Presidente del Consiglio, se mi rimani fedele ti ricandido, e ricandidarti vuol dire farti eleggere di sicuro perché ti scelgo io. Altri dicono cambiamo la legge elettorale, dopodiché se c'hai soldi, se c'hai la capacità di crearti preferenze verrà rieletto, altrimenti la tua esperienza finisce qui. Vabbè. Quindi la moneta di scambio per il Presidente del Consiglio è molto superiore. Quindi per lui c'è una fortissima convenienza. Aggiungo un'altra cosa, che mentre 2 anni fa Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani portavano a compimento un'esperienza ormai esausta con Bertinotti, con Di Liberto, adesso mi sembra che la vitalità di Sinistra e Libertà di Vendola sia molto in grado di superare la soglia del 4%, questo erode consensi al PD. E ugualmente Grillo dimostrerebbe, come già in Emilia, come già in Piemonte, di avere una capacità di consenso che va sempre a detrimento delle forze di sinistra, quindi a tutto vantaggio di Berlusconi. Drammaticamente l'opposizione è all'angolo, questo è un qualcosa. Va bene, che grazie Antonio leggere. Della sua analisi politica. 18.36, titoli del TG2. Momenti di tensione in aula alla Camera, respinta la mozione di sfiducia al sottosegretario Caliendo. Alfano, il caso P3, una costruzione dei PM e di certa sinistra. Primo via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul federalismo fiscale. Dal prossimo anno cedolare secca sugli affitti, aliquota al 20%. In Iran il presidente Ahmadinejad scampa un attentato poco prima di un comizio. Il governo di Teheran smentisce l'episodio, su cui restano molti interrogativi. Dopo 3 mesi di tentativi e milioni di litri di petrolio riversati in mare, forse è la fine di un incubo. Piazzato il tappo di contenimento sul pozzo del disastro, per la BP l'obiettivo è raggiunto. Qualche titolo anche da Studio Aperto. Notizia di poco fa, la Camera ha respinto la mozione di sfiducia contro il sottosegretario alla giustizia Caliendo. C'è stata una standing ovation dai banchi della maggioranza per il presidente del Consiglio Berlusconi e dal Consiglio dei Ministri. Arriva il primo via libera al decreto attuativo del federalismo fiscale. Tra le novità, tassa unica sugli immobili e cedolare secca sugli affitti. Soddisfatti i comuni, questo provvedimento ci rimette in carreggiata. Nessuna telecamera nella chiesa di Bronte, tanti ragazzi. Fiori, bene, Francesco da Lucca, buonasera, 800 24 00 24, dica. Buonasera dottore, buonasera a tutti. Volevo esprimere il mio assoluto sgomento per la paventabile nascita del terzo polo di centro. Sgomento perché, addirittura. Sì, sì, perché guardi dottore, i parlamentari che si propongono ancora sembrano dimenticare cosa ha fatto questa nonna DC, della DC, no? È un debito pubblico che chissà quando si sanerà e quando finiremo di pagare. Per non parlare dell'abitudine che ormai siamo abituati. Scusi, perché lei accosta il terzo polo alla vecchia DC? Insomma, le forze che politiche che ci sono dentro. Casini, insomma, Lombardo, Rutelli non apparteneva alla vecchia DC e nemmeno Fini. Insomma, in realtà sì, e l'abbiamo sempre saputo anche noi elettori del centrosinistra, soprattutto di Rutelli, insomma l'UDC. Sì, ho capito, ma non alla vecchia DC, dico. Com'è. Beh no, però il filone è quello lì, e quello lì, e mai ci sono stati segnali di distaccamento da un certo modo di fare, che ci ha abituato addirittura a governare con mafia e camorra e tutti gli annessi. E soprattutto io sono uno di quei cittadini che si riesce ancora a meravigliare di un Pomicino che ancora ha il coraggio e la forza di intervenire pubblicamente con il suo nome che porta. Che dovrebbe fare, scusi Francesco, impiccarsi? Che dovrebbe fare? Si dovrebbe impiccare? Il terzo polo di centro è una novità politica. Ma che dovrebbe fare? Si dovrebbe impiccare, mi scusi. Ma guardi, io sono di Caserta e sono trasferito a Lucca. E allora? Sono un ingegnere ambientale e sono dovuto scappare dalla campagna che la DC campana ha creato. Quindi per me potrebbe anche impiccarsi, sì, perché no? Vabbè, Francesco, questo mi sembra esagerato, francamente, mi scusi. La ringrazio, mi sto sfogando, però. Ho capito, lei si sta sfogando, Pomicino si dovrebbe impiccare, ma che significa? No, insomma, no, magari, lui non doveva stare qui in radio, ho esagerato, bastava che non veniva riproposto così come viene. Che significa? Ma è una persona che... E sia questo terzo polo di nuovo. Va bene, ho capito. Edmondo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica, Edmondo. Non intervenire a questo modo, nel senso sì. Che non tanto per il discorso che faceva il signore di prima, dato l'opportunità politica di cui parla Pomicino, in cui lui è un inquisito, condannato, per l'opportunità politica per lui non funziona. Edmondo, però io non ne posso più di questi discorsi che riguardano Pomicino. Ogni volta, e non sono tante, in cui Pomicino interviene qui come in altre sedi, eccetera. Ha avuto, poi non so nemmeno se sia stato mai condannato, ma non so nemmeno se sia stato. Ma non dica stupidaggine, Edmondo. Lei parla di Pomicino come di un condannato. Non so nemmeno se sia stato condannato in via definitiva. Anche se lo fosse stato, anche se lo fosse stato, ha tutto il diritto di parlare, Edmondo. Anche se lo fosse stato, non può parlare. Io sto contestando quello che ha detto. Lui ha detto che per opportunità politica Caliendo si dovrebbe rimettere. Allora, per opportunità politica, che ci sta a fare in Parlamento Pomicino? No, non è in Parlamento. Non è in Parlamento ora, Pomicino. Non è più, ma infatti ha un incarico istituzionale che lui dice che non guadagna nulla. Sì. Gli faccia dire cosa fa e chi muove e chi non muove ancora a Roma. Pomicino. Chi muove a Roma Pomicino? Glielo chieda a lui. Glielo chieda a lui. Non faccia questa voce un po' così ironica. Glielo chieda a lui, come se lei sapesse tutto. Glielo che cosa sa? Glielo chieda a lui, Cruciani. Chi muove Pomicino a Roma? domandi cosa fa veramente Pomicino, che dice che lavora gratis per il governo. E invece cosa domandi fa? Cosa fa? Invece cosa fa? Mi dica, me lo dica lei, Edmondo, se me lo dice lui. Il presidente lui controlla praticamente tutte quelle che sono le gestioni amministrative e statali. Ma e domanda cosa fa questo signore che lavora gratis? Invece che lavorare gratis può rimanere in Sardegna tutto l'anno. E invece che fa? E invece lavora gratis per il governo, uno che è stato condannato e che è rimasto in Parlamento. No, ma quando lei dice fa cosa fa altre cose, cosa fa? Ma perché non glielo domanda a Pomicino? E insiste, ma Pomicino non mi dirà, magari non mi dice la verità. Lei che la sa più lunga degli altri, mi dica cosa fa. No, ci mancherebbe altro. Non lo sa nemmeno lei in realtà. No, non lo so nemmeno io. Non lo benissimo, so nemmeno io. Grazie. Arrivederci. Abbiamo Rossano da Fermo, Francesco Provincia di Cagliari. Papillo, dove eri finito? Paolo Papillo, dove sei Buonasera, finito? Buonasera, ciao. Dove sei finito? No, ero qua che aspettavo. Ti sei eclissato quando hai sentito Pomicino, ti sei messo paura, sei scappato. No, papà, Pomicino a me è anche simpatico umanamente. Ha detto pure che Caliendo si deve dimettere, e insomma, magari sei pure così. Ma non contento. È vero, è sbagliato, Caliendo non si deve dimettere. Vabbè, adesso. Perché come no? Allora perché Caliendo sì e Berlusconi no? Vabbè, basta con questa storia, questo paragone, non c'entra nulla. Vabbè, no, comunque ho assistito con fatica al dibattito parlamentare e sinceramente questi finiani che io considero praticamente, io adesso coniò un nuovo termine, i pidiani, cioè che significa? Perché faranno i pidiani si incasinano, quindi c'è già tutto in questa frase, no? I pidini faranno alleanza con Fini e con Casini e sostituiranno oramai un governo marcio, perché è indifendibile, sostituiranno con una cozzaglia di interessi vergognosi. Ma non ho capito niente, Papillo, di che stai parlando? Sono di estrema sinistra . E l'unico che mi è piaciuto è stato Di Pietro, che li ha chiamati con l'unico epiteto che meritano, qua. Questo è Di Pietro, devo far sentire Di Pietro. Sentiamo Di Pietro nell'intervento ha riproposto le solite cose, Nerone, eccetera, eccetera. Lei, signor Presidente del Consiglio, sta abusando della pazienza degli italiani. Se ne sta lì, novello Nerone, nella sua terrazza dorata a suonare l'arpa, con le sue ancelle prezzolate, mentre il paese brucia. Beh, non è male questa qua, le ancelle prezzolate. Francesco, provincia di Cagliari, che c'è, Papillo, che c'è? E come si definiscono? Quante cene ha fatto con le deputate? Organizza le cene con le deputate. Non sono ancelle, ieri sera ti sei tenuto mezz'ora, come si chiama quella lì? Adesso mi sfugge il nome. Cosa? Chiamiamole ancelle, io le chiamerei Terri De Nicolò. Terri De Nicolò. Vabbè, io le chiamerei mica è deputato Terri De Nicolò. Ma che c'entra? Ma questo è un troiame imperante. Che paroloni, no, ma che... Come no? Scusa, perché facciamo gli ipocriti, facciamo le dame di San Vincenzo? Questo è così. Ma questa è un'altra questione, non è andata la cena con le deputate è un'altra cosa. Vabbè, Francesco, ma provincia di Cagliari. La stessa buffa. Ma come la stessa buffa? Uno Berlusconi non può invitare a cena nel suo castello. Ma li vedete come parlano? Io faccio il camionista, non mi ci cambierei con questa gente, non hanno idee, sono morti, politicamente morti, più morti ancora chi li vota, civilmente perlomeno. E Grillo che non vuole fare l'intervista qui. Grillo mi dispiace, io andrò a Cesena il 26, Grillo mi dispiace che non viene da te perché sarebbe una puntata memorabile, magari quando lo vedo glielo dico, anche se riuscirò a vederlo a Cesena. Grazie. Io non ho nulla contro Grillo, cioè non sono d'accordo nemmeno su una virgola di quello che dice. Ma io su alcune cose sono d'accordo, su alcune no. Appunto, però ci si confronta, no? Ma una cosa è certa, almeno ti fa sentire vivo. Io vabbè, quello è un altro discorso, a te piace Grillo, a me no. Ti sembra una cosa da poco far sentire vivo? No, per carità, lo dico. A me non suscita nemmeno questo. A te sì, ma perché non vuole venire alla Zanzara? Io me ne frego. È fatto così, non vuole venire. Che vuoi fare? Vabbè, mi dispiace. Adesso tanto questa telefonata gliela sentirà perché gliela manderemo sul blog e vediamo cosa. Quindi allora, tu lo inviti formalmente? Io è certo che lo invito formalmente. L'abbiamo invitato, ma ha risposto no, con quel Cruciani non parlo, Cruciani non so nemmeno definirlo, quel giornalista lì. Insomma, non aveva una grande considerazione del sottoscritto, ma questo va bene. Intanto ti segnalo una nuova entry in Parlamento con un nome veramente bizzarro, Deodato Skanderbeg. Com'è? Un nome famoso, importante, di origine castro-albanese, stiamo parlando del 1400, il famoso eroe nazionale Giorgio Scanter, quindi non è, ma è fantastico, tutto, no, è storico, famoso, sì, ma anche prestigioso. Per carità, per carità, io non la volevo offendere, bizzarro in questo senso, difficile da pronunciare, certo, ma l'hanno pronunciato bene chi l'ha proclamata deputato, l'ha pronunciato bene? No, infatti Cassini per primo ieri non è riuscito a pronunciarlo bene, però ripeto, una volta pronunciato bene ci si memorizza molto, allora, bene. Allora, la pronuncia esatta qual è? È difficile poi da non pronunciare più. Qual è la pronuncia esatta? Skanderbeg? Skanderbeg. Skanderbeg, ma Deodato che vuol dire? Deodato vuol dire dato a Dio, donato a Dio. Donato, certo, che, a Dio, certo, donato a Dio. Certo che lei, Deodato Skanderbeg. Sì. Nella storia parlamentare raramente c'è stato sicuramente un nome del genere. Abbiamo il traffico, poi torno subito perché lei è un caso un po' bizzarro, ecco, me lo consenta, questa volta è bizzarro perché entra in Parlamento in sostituzione di Vietti, dunque UDC, ma lei è già uscito dall'UDC, anche qui alchimia della politica italiana. Traffico. La Zanzara. Ciao, mi hai riconosciuto? Sono Skanderbeg. Skanderbeg, anch'io conosco già molti di voi, perché al centro della mia politica c'è sempre la gente. Il 28 e 29 marzo in regione sono candidato, resta al centro con me e continuerò a lavorare per te con onestà e passione come ho sempre fatto. Destra, sinistra, non sbagliare mira, solo con Skanderbeg puoi fare centro. Quando sigli la scheda elettorale devi riflettere, non devi sbagliare. Se stai cercando coerenza ed onestà per te, mira bene e segna Skanderbeg. I valori lo sai non sono in vendita, servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene gente, è il momento. Giovani e anziani, siete stupidi, state al centro. Telese, lo sai che cos'è questo rap? Cos'è? È il rap che introduceva in campagna elettorale in Piemonte Deodato Skanderbeg, nuovo deputato al posto. Sì, con quella voce, quel rap. È bellissimo, nuovo deputato al posto di Vietti, che però non è più dell'UDC. L'abbiamo qui in collegamento. Skanderbeg, ma è straordinario. Chi l'ha inventato questo rap? Sì, ma guardi, questo rap, appunto, quando già non ero più dell'UDC, ma sono rimasto al centro con la gente, come ha potuto ascoltare. Eh sì, ma chi se l'ha inventato? In coerenza col mandato elettorale. Vabbè, ma lasciamo perdere questo, l'ho chiesto. Chi se l'ha inventato questo rap? Questo rap è mia figlia Federica. Ah, sua figlia Federica? Consigliere comunale, prima eletta nel comune di Torino. Ma con chi? Eletta con chi? Perché qui è difficile capire. Sempre eletta, sempre con l'UDC. Allora scusi, sua figlia l'UDC in regione Piemonte era al centro. Ho capito, dunque era nel concetto era al centro. Ho capito, però allora Telese, dobbiamo capire a questo punto, dobbiamo capire, siccome Skanderbeg ha avuto un problema adesso con la sua lista, ma non ce ne occupiamo, ce ne occuperemo magari in un altro momento. Skanderbeg era nell'UDC, poi è passato con Coda perché l'UDC si è alleata. No, non sono passato io, aspetti. Vabbè, l'UDC è andata con l'Abresso, è andata con l'Abresso. D'accordo. Dopo che io, aspetta, dopo che io ho 5 anni e adesso ho fatto opposizione all'Abresso come E adesso è il centro. Adesso Skanderbeg, perché lei ha aderito a quale gruppo? Al PDL? Al PDL. Dunque sempre oggi moderato PDL. Benissimo, oggi non ha votato la sfiducia. No, immagino. Ho votato, certo. Cioè, ha votato contro la mozione di sfiducia. No, eppure con Skanderbeg sono 2,99, ma dove sono finiti questi deputati? Vabbè, c'erano degli assenti. Allora, Skanderbeg, però è straordinaria questa cosa. Sua figlia è consigliere comunale a Milano? No, Torino. Scusi, a Milano, a Torino, un lapsus. Dunque, sua figlia è rimasta nell'UDC e lei invece nel PDL? No, è uscita insieme a me. Vabbè, a braccetto andate. Al centro con Skanderbeg. Io ho fatto l'alleanza col centrodestra in Regione Piemonte, qui sono entrato nel centrodestra, che peraltro poi la mia storia, cioè io provengo da Forza Italia. Ma sua figlia adesso è nel centrodestra al Consiglio Comunale? Certo. È nel centrodestra pure lei? Anche lei adesso si iscriverà nel PDL a Torino, certo. La pensate allo stesso modo, dunque? Certo, sì. La pensiamo allo stesso modo, ma con indipendenza intellettuale. Cioè, no, lei oltretutto, cioè, è nata insieme a me come fans di Berlusconi, cioè, voglio dire, ha seguito tutte le mie orme fin dall'inizio. Ma mi spieghi questa cosa? In politica nel 1994. Sì, è cresciuta con me come fan di Berlusconi? Com'è? Lei ha detto, è cresciuta con me politicamente come fan di Berlusconi? Sì, perché, ripeto, più che fan, cioè, lo ammirava, quindi cioè, per lei Berlusconi è il massimo. Secondo padre. Addirittura, è una secondo... cosa che politicamente la entusiasma, sotto tutti i punti di vista. E anche... per una ragazza che è cresciuta con l'entusiasmo del 1994, quando c'è stata la discesa in campo di Berlusconi, insomma, poi naturalmente... cioè, ma quanti anni ha sua figlia, mi scusi? Attualmente ce n'ha 25. Capito, ma nel 94 quanti anni aveva? Nel 94 quanti anni? Comunale a Torino. Ma nel 94 quanti anni aveva sua figlia? Nel 94, faccio il conto, è nata nel 55, quindi aveva... No, 94. Come è nata nel 55? Mi ha detto che c'ha 25 anni. Adesso. 85, scusa. No, ah, 85. 85, no, appunto. Beh, lei ha già il mito di Berlusconi nel 94, a 9 anni. Sì, ho delle foto sue a 9 anni, che era infatti anche delle dediche di Berlusconi, 9-10 anni. Sì, cioè, sì. No, mi spieghi bene questa cosa. Sua figlia, Federica Skanderbeg, lei mi dice, Skanderbeg, mi scusi, aveva... Va bene. No, Skanderbeg, quello che è giusto è giusto. Aveva il mito di Berlusconi... sin dai 9 perché anni. Seguendo le orme del padre mi aiutava, la portavo nelle convention, nelle manifestazioni politiche, e quindi si è entusiasmata anche la politica di suo padre, di riflesso naturalmente Berlusconi per lei, certo, è stato un mito. Un secondo padre, mi diceva prima, no? Prego? Come un secondo padre. Sì. Dal punto di vista politico è chiaro. Sì, è chiaro, chiarissimo. No, ma voglio dire, che succedeva concretamente? Cioè, come la seguiva questa campagna di Berlusconi nel 94? Sua figlia, come la seguiva? Mia figlia, ripeto, sia mia figlia che mia moglie, in qualche modo, cioè, mi sono stati sempre vicini, per cui, essendomi stati vicini, hanno anche loro ripercorso tutte le mie orme, hanno ripercorso la mia storia politica, fatta di entusiasmo e di passione, certo. Perché io sono uno che mette entusiasmo e passione, come ha potuto anche sentire dal rap e da tutta la mia storia politica. Il rap è fantastico. Torino e provincia. Fammi risentire il rap. Lei ha ottenuto sempre grandi, sì, tante preferenze, no? Sono uno dei pochissimi politici a livello nazionale che riesce a parlare con la gente. Tante preferenze. Il rap è fantastico, Skander, perché è fantastico il rap. Guarda, ti posso assicurare che non ha niente di professionale, nel senso, no, appunto, è nato tutto sulla voglia di fare, ma soprattutto un intuito semplice. Ma il passaggio al centro con Skanderbeg ci sei tu, passione, competenza, dedizione, troverai un futuro migliore, Skanderbeg, Skanderbeg, me lo intoni un po' pure lei, come fa questo passaggio? Prego? Come fa questo passaggio? Troverai un futuro migliore, Skanderbeg, Skanderbeg. Ma questo è fatto per cercare di scandire bene come si scrive Skanderbeg, perché lei mi insegna che con un cognome così difficile molte delle mie preferenze vengono, certo, sempre annullate, perché è difficile da scrivere. Non c'è dubbio. Sentiamo un po'. In più si parlava di preferenze, quindi. Sì. In vendita servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene, gente, è il momento. Giovani, anziani, siete stupidi, state al centro. Al centro con Skanderbeg ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza, edizione. Qui troverai un futuro migliore. Al centro con Skanderbeg ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Ma la voce di chi è? La voce sono dei ragazzi che conosce molto bene mia figlia, degli amici di mia figlia, dei ragazzi molto giovani. Ma sua figlia è proprio una sua fan assoluta. Sì. Senta, ma mi ha ricordato, non si offenda. Di me nelle cose, per cui, sì. Senza parlare di nepotismo, per carità. Poi, ma Berlusconi l'ha conosciuto? È autonoma, sì. In questi ultimi tempi penso che in Comune di Torino si sia fatta rispettare. Sì. Sia ma l'ha conosciuto Berlusconi? Di colleghi di sinistra. L'ha conosciuto Berlusconi, sua figlia? Sì, più di una volta, glielo ho detto prima. Ah, cioè vi siete conosciuti come lei, Berlusconi? Ma l'altro giorno era pure a cena con Berlusconi, lei, no? Sì, io sì, mia figlia sì. No. Mia figlia purtroppo no, non è venuta. Totalmente. Ma non è che mi ricordo un po' la vicenda di Noemi, per carità, non voglio... No, non facciamo paragoni, paralelismi, no. Per carità. No, non facciamo simili insinuazioni. No, perché, insinuazioni, non ci credo nemmeno in quello che lei vuole insinuare. No, ma non sto insinuando nulla, per carità, no, per carità. Senta, no, però no, sua figlia disse una volta, ho ritrovato qui una frase... Sono di provenienza meridionale, Salentino Doc. Pure Noemi lo delava. Tutto rispetto. Senta, ma... La lascerei qualsiasi posto del mondo perché ne sono orgoglioso. Certo, perché... Ed entusiasta di avere una figlia così. Senta, sua figlia però, ho ritrovato in qualche giornale locale, ha detto una frase che mi ha colpito molto quando c'è stata la presentazione della sua lista. Quando ci fu la presentazione della lista per Cota, sua figlia disse: siamo un grande centro moderato che rispetta la famiglia e le grandi opere, non potevamo stare in un partito che partecipa a una coalizione in cui si sposano le lesbiche. E addirittura lì si vede che c'è stato qualcosa. Lei l'avrà visto su internet questo. Sì, ma lei lo sa che su internet riescono sempre un si po' scrivono a, un sacco di fregnacce a raggirare. No, lì il problema è che il sottoscritto ha fatto una battaglia in Regione Piemonte laddove c'era un disegno di legge che sì. equiparava le coppie di fatto equiparava la famiglia alle coppie di fatto indipendentemente dagli orientamenti sessuali. Sì. Poi è nato da beh, ma non è che si sposano problema, le lesbiche, è una frase un po'. Si cerca sempre di strumentalizzare. Certo, ma fa parte della vita politica, del rischio che un eletto come un eletto a qualsiasi livello deve purtroppo sopportare e portare. Senta, ma è vero che nei comizi le introducevano con ma chi è Obama in confronto a te? Perché lei prende un sacco anche di anche questo l'ha letto su internet, ma è vero che è stata una grande convention. A me piace molto organizzare le convention, organizzare non solo ciò che riguarda, ripeto, presentazioni di partiti, ma anche grandi convegni di grande interesse. Comunque lei per concludere, lei è entrato alla Camera in quota UDC, però adesso si è iscritto al gruppo del PDL. Succede anche questo nel Parlamento italiano. Rap conclusivo, Skanderbeg, grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci, buona giornata. Servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene, gente, è il momento. Giovani e anziani, siete stupi, state al centro. Al centro con Skanderbeg ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza, edizione, qui troverai un futuro migliore. E siamo di nuovo qui dopo la performance di Skanderbeg. Papillo, hai sentito Skanderbeg? Non l'hai sentito, non l'hai sentito. 19:17, TG3. Alla Camera altissima tensione, respinta la mozione per le dimissioni di Caliendo con meno di 300 voti, sotto la soglia di maggioranza di governo. Con l'astensione debutta il gruppo Fignano, con loro i centristi. Casini cambia il volto della legislatura. Bersani ospita al TG3. Ora l'abusivismo edilizio nella realizzazione delle strutture per i mondiali di nuoto, la nuova ombra su Balducci. Ci sarebbe anche il nome del governatore Chiodi nelle carte della Procura dell'Aquila che indaga su presunte tangenti. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla cedolare secca sugli affitti, ma ancora non si sa quale sarà l'aliquota della nuova tassa. Giallo in Iran per un'esplosione al passaggio del presidente Ahmadinejad. Teheran smentisce il fallito attentato, solo fuochi d'artificio. Un 16enne uccide un 13enne, a Bronte una ragazza violenta un disabile, una baby gang a Padova taglieggia i coetanei, storie di adolescenti. Papillo, ti sei divertito con Skanderbeg, è vero? Ti sei divertito con Skanderbeg, dimmi la verità. Sì, no, vabbè, cioè, a me conviene ridere. La figlia che ha 9 anni aveva il mito di Berlusconi. No, però era... Sai quando ti viene... Cioè, è quel divertimento... Mi ero commosso, guarda, lacrimavo quando mi immaginavo questa bambina che era costretta a seguire le convention con Berlusconi. Si vede che il telefono azzurro non esisteva all'epoca, se no era da denunciarlo comunque, questo genitore. Sky TG24. La Camera boccia la sfiducia a Caliendo, in aula fischi e cori da stadio. Il PDL parla di giustizialismo forsennato, sottosegretario colpevole di niente. A fondo di Franceschini contro Berlusconi, mostra muscoli che non ha. Fisco municipale, primo via libera, arriva la cedolare secca sugli affitti. Accordo raggiunto sui tagli Telecom, quasi 5.000 esuberi per Unicredit. Inchiesta sui mondiali di nuoto, Balducci a giudizio con altri 32. Vigilante si infuga con 900.000 euro, caccia all'uomo nel Salernitano. Bomba in Iran, salvo Ahmadinejad, ma il regime smentisce l'attentato. Il Papa incontra i chierichetti e parla di pedofilia, attacchi spesso scorretti. Baggio, Sacchi e Rivera, la Federcalcio ufficializza il tridente azzurro. Tu sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, no, non mi interessa. Come mai? Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non se posso... era lei un'intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, non le dico il mio... non lo voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. Dunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Beppe Grillo versus la Zanzara, e però abbiamo anche un Beppe Grillo che, intervistato dalla BBC, a un certo punto si mette a suonare questa canzone. Abbiamo psiconali, ballerine, mignotte, piduiste, truffaldine. Qui fuori legge fanno le leggi, come nel Medioevo. Cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai. Beh, me l'hai promesso, Papillo, Che cosa, dimmi? Devi parlare con Grillo. Sì, a Cesena, il 26 settembre, la Woodstock del Movimento 5 Stelle. 1 milione di persone si avranno. Ma che rapporto hai con Grillo tu? Tu che sei uno del web, un demagogo, un populista, sei come lui. Un demagogo, populista, ehi. Ma sono un cittadino che si è stancato. Vabbè, di insomma, ho capito. Allora tu hai un ci parlo. Che rapporto hai con lui? Che rapporto hai? Ci faccio quattro chiacchiere, mi conosce, quando mi vede, non siamo amici, non posso millantare una cosa del genere perché non è vera. Mi conosce visivamente, ci si parla, si è discusso, niente. Vabbè, insomma, mi raccomando, porta avanti la nostra istanza, non lo vogliamo torturare, magari ci litighiamo un po', ma è normale, il sale della democrazia. Io non sono... Ma guarda che penso che non ha paura di confrontarsi. No, ma non è la paura. Non credo che abbia paura. Assolutamente, per carità. Per carità. Credo che ci siano persone che possono tenere testa a Beppe dal punto di vista del confronto. Allora, intanto c'è ancora in ballo la vicenda di Monte Carlo, la casa dove abita Giancarlo Tulliani. Non sono arrivate ancora spiegazioni, secondo la Zanzara, ma non solo secondo la Zanzara, sufficienti. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar sceri a Monte Carlo. Barbareschi, Finiano contro Feltri. Prenderemo lezioni di morale da Feltri solo quando Feltri diventerà direttore responsabile di un giornale come Dio comanda, nel senso non mettendo davanti Sallusti, no? Perché diceva già Ricucci che a fare i furbi con le cose degli altri è troppo facile, per cui quando Feltri firmerà un giornale, sarà il direttore responsabile e prenderà anche le querele e le cause, prenderemo lezioni, altrimenti è un simpatico giocherellone. È un eterno sogno Monte Carlo. Non ho capito bene la posizione di Barbareschi. Finché Feltri diventa direttore di un giornale che non ha la copertura economica di Berlusconi, così sembra di capire, allora insomma, non vale niente quello che dice. Poi riferimento a Sallusti non l'ho capito. Campi, Alessandro Campi, che è vicino a Fini, però dice, sentite. Non perché sia la terza carica dello Stato, ma perché chiunque, come lui stesso ha detto ad altri, abbia responsabilità politiche di fronte ad una cosa del genere, ha il dovere di chiarire come stanno le cose. Andrà perduto, non tardare più, manchi solo tu. Osceri ritorna a Monte Carlo. Enzo Raisi invece ieri alla Zanzara dice il giornale come Novella 2000 senza foto. Gli altri preferisco, ripetono, penso che il modello sia Novella 2000 senza le foto, perché questo è l'altro problema che trovo un po' dal punto di vista, diciamo, estetico brutto. Ecco, cioè, quindi che in realtà la politica è Novella 2000 senza le foto. Bene, c'è un altro mondo che pensa che sia questo. Questo è il modo migliore per distrarre il paese sui veri temi politici. E Raisi poi dice è normale fare transazioni finanziarie a Monte Carlo con società offshore. Essendo considerato ovviamente Monte Carlo un paese a rischio, la maggior parte degli immobili di proprietà immobiliare di Monte Carlo sono legate a società finanziarie, diciamo così, offshore, si chiamano così, bene. Per cui se lei ha un appartamento e lo vuol vendere, e vuole vendere anche abbastanza velocemente, deve vendere su quello che offre il mercato, cioè società di questo tipo, altrimenti se lo tiene sul coupone. Allora, visto che sul coupone non se lo volevano tenere, io credo che mi ha fatto cosa buona e giusta venderlo. Per cui lo scandalo di averlo venduto a una società offshore mi sembra uno scandalo di uno che vive fuori dal mondo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, osceri con me a Monte Carlo. Bene, 1926 800 24 0024, come avete sentito dal giornale radio, con 299 voti e 75 astenuti, la mozione di sfiducia nei confronti di Caliendo non è stata approvata. E poi naturalmente ci sono le discussioni, pochi voti, tanti voti, governo più debole, governo più forte, elezioni più vicine o più lontane. Francesco, provincia di Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io volevo fare un intervento sulla questione del governo tecnico per dargli un po' di dignità costituzionale, perché sembra che sia una parolaccia il governo tecnico, ma dal punto di vista costituzionale è una forma corretta per affrontare le crisi istituzionalmente. Però volevo, siccome sono rimasto molto in attesa, Grillo con Papillo si sono conosciuti a Piazza Farnese. E allora? Il 28 gennaio. Non lo so, adesso non è importante. Non è importante. No, ero a fianco a Beppe. Sì, ma non è un incontro, non è l'incontro di Teano. Mi scusi, Francesco, con tutto il rispetto per Papillo, non è l'incontro di Teano, abbia pazienza. No, siccome hai detto anche che magari Papillo aveva paura di Pomicino, ha detto in diretta davanti a un milione di radioascoltatori su Radio 1, anch'io, davanti a Buonaiuti, che il premier era un puttaniere. Quando si parlava di escort e nessuno sapeva che parola fosse. Sì, l'abbiamo fatto ascoltare. Allora l'abbiamo fatto ascoltare anche qui alla Zanzara, perché non abbiamo problemi. Allora? No, qui sicuramente non avrebbe avuto paura di intervenire anche con Pomicino preso. Ma non c'entra niente, Pomicino non c'entra nulla con Grillo. Francesco, lei ha capito male. Ritorni alla questione precedente. La questione del governo tecnico. Siccome abbiamo una situazione economica, soprattutto internazionale, molto delicata, e sicuramente una crisi al buio ci creerebbe il rischio Grecia quasi assicurato. Il governo tecnico, magari presieduto da Tremonti, con dei tecnici di provata capacità soprattutto super partes, magari non facenti parte cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare questo governo tecnico? Beh, dovrebbe prima di tutto mettere in assetto la questione economica, poi? Quella statale, soprattutto quella della spesa ministeriale. Vabbè, poi? E non tanto delle regioni o dei comuni. E poi sicuramente creare una commissione per ripristinare una legge elettorale in sintonia con la Costituzione. Ho capito. Perché un Parlamento di nominati non può permettersi benissimo di fare un'altra legge elettorale. D'accordo, cioè, Francesco, però mi scusi un attimo. Francesco, lei che è un estimatore di Grillo, ma le pare normale che il Movimento 5 Stelle o Grillo stesso si faccia fautore di un governo di transizione? Un governo di transizione, facendo anche il nome di Montezemolo, era chiaramente una frase detta lì. Grillo ha detto Montezemolo, ma potrebbe esserci anche Tonino Curto, non so, una cosa del genere. Comunque ha fatto il nome di Montezemolo, adesso non andiamo troppo a interpretare. Insomma, mi sembra una posizione un po' bizzarra, no? Sì, vabbè, infatti c'è una questione costituzionale che anche il movimento dovrà uno è fautore, mi scusi un attimo, uno è fautore della democrazia diretta, i cittadini, le cose, e poi dice ci vuole un governo tecnico. Insomma, mi sembra una contraddizione enorme. Abbiamo la borsa, ci sentiamo tra un attimo, dopo la borsa. La Zanzara. Vi voglio ricordare ancora per qualche giorno, potete votare sul nostro sito www.radio24.it, potete votare le ugole del palazzo, il migliore parlamentare canterino. Devo dire che non ci posso credere, in testa ci sarà stata una ola di fan, Barbato dell'Italia dei Valori, che per carità... grande volontà, però il risultato fu questo. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora. È in testa col 35-36%, non so bene quanto, vi prego. Cliccate qualche altro nome, adesso sarà pure scorretto. Cliccate, mi è simpaticissimo l'onorevole Barbato, mi è molto simpatico. www.radio24.it, le ugole del palazzo. Papillo, Barbato è simpatico però. Sì, Barbato è simpatico, però a cantare fa... È agghiacciante, è agghiacciante. Vabbè, ma non... Però volevo dire una cosa, no? Su che cosa? Sulla vicenda di Grillo e Montezemolo? No, vabbè, non... Guarda, a me il governo tecnico... Poi io sono tendenzialmente rivoluzionario, quindi mi fa schifo anche il governo tecnico, di conseguenza. Figuriamoci. Al di là di questo, volevo fare una domanda a te, che sei un giornalista che conduce una trasmissione importantissima. Ma è uscito... se ricordo bene ieri o l'altro ieri sul Fatto Quotidiano e sull'Espresso, sì, sì, della vicenda di Autore 1, Autore 2, in riferimento alle indagini che si prolungheranno sulla strage di Borsellino. Sì. Autore 1 e Autore 2 vengono indicati ovviamente per Berlusconi e per Dell'Utri come indagati, e precisiamo. Io vorrei sapere una cosa: come mai i media, i grandi media e i grandi giornali, telegiornali, hanno quasi taciuto la vicenda? Ne ha parlato solo l'Espresso e il Fatto. Ma non mi pare, Papillo, che la vicenda che riguarda la trattativa tra Stato e mafia ho detto che tutte queste vicende non entro nel merito perché non è questa la sede, tutte queste vicende che riguardano, non è la sede, una trasmissione di informazione anche no, ma non è la sede giusta, lo sai benissimo, e lo sai benissimo che non è la sede giusta, ripeto, tutte queste vicende vengono trattate come dalla stampa, vengono trattate dai grandissimi giornali come dei piccoli giornali o comunque dei giornali con minore tiratura. Vengono trattati. Intanto Chiara Moroni, per carità, infatti. E intanto Chiara Moroni lascia il gruppo del PDL e passa con i Finiani, ma la cosa era ampiamente prevedibile. 800240024, Stefano da Torino, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Dica. Mi sono divertito molto prima col signore di Torino, ho dovuto fermarmi in auto. Oh, Skanderbeg, ridatemi il rap, Skanderbeg, vi prego. Ridatemelo. Andavo fuori strada con l'auto, momenti. Adesso non voglio metterla ancora in difficoltà. Lei è fermo, Stefano, adesso. Adesso sì. Sono fermo, sono è arrivato fermo, a casa. Dunque, non rischia nulla. No, non rischio nulla. Volevo ragionare un attimino con lei, capire il mossone di Fini. Sì, Fini, intanto godiamoci questo rap un secondo. Godiamoci questo rap. Cercando coerenza ed onestà per te, mira bene e segna, Skanderbeg. I valori lo sai, non sono in vendita, servono fatti. L'hanno fatto gli amici della figlia. riflettete bene gente, è il momento. Giovani anziani, siete stupidi, state al centro. Al centro con Scandere Beck ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza. C'è qualcosa in più che non ho chiesto a Scandere Beck, magari lo invito domani, è che la campagna elettorale a Torino per le regionali l'ha fatta insieme a Pippo Franco. C'era anche Pippo Franco, non capisco perché, perché poi Pippo Franco non è di Torino. Vabbè, Stefano, allora? Volevo commentare, ma che cosa spera di ottenere Fini facendo questo mossone? Perché io sono, premetto, sono elettore di centrodestra, capisco anche le sue ragioni formalmente su certi argomenti, ha anche ragione, per esempio sul decreto delle intercettazioni non era una bella cosa, però facendo così ci mette nelle mani del nemico, perché se cade il governo che famo? Andiamo a votare, perdiamo un sacco di voti. Non ho capito bene, scusi Stefano. Cioè lei dice Fini tira la corda sapendo che poi si può andare alle elezioni e dunque non, ho capito non bene otterrebbe la sua mossa, nulla. Cioè, vuole fare, non ho capito la sua mossa politica. Spera che il governo galleggi per prendere tempo e per vedere il da farsi. Certamente a Fini non convengono le elezioni subito, su questo non c'è dubbio. Sì, ma conveniva... in politica ogni tanto si prendono dei rischi. Sì, ho capito, ma perché non lavare i panini sporchi in casa? Come, scusi? Perché non lavare i panni sporchi in casa? Si prendeva una botta lui e Berlusconi di nascosto, però almeno sarebbe... Vabbè, Stefano, insomma, la situazione è evidente che non era più sostenibile. È chiaro, ma così mandiamo il rischio tutto il centrodestra. Ho capito, ma bisogna vedere se esiste ancora il centrodestra. Quella ragione. Però diciamo così facendo molti elettori... Ma lei mi sembra amareggiato, Stefano. Ma sono amareggiato della sua mossa, nel senso che... molti elettori del centrodestra che non sono totalmente contenti di quello che il governo ha fatto fin qua finora potrebbero decidere alle prossime elezioni di non votare perché sono un po' stufi, perché sinceramente avrei preferito che Fini soffrisse un po' di più ma che si andasse avanti col processo delle riforme e di tutto quello che si deve innovare nel paese. Ho capito. Non capisco tanto l'utilità, come diceva... Ho capito, ma evidentemente non sono d'accordo quasi su nulla, dunque non ha più senso rimanere insieme, Stefano. Capito, poi ognuno ha i suoi colpevoli, secondo me più colpevole Berlusconi e più colpevole Fini, ma è un dato fatto ormai è un dato di fatto. Gli elettori sono un problema, soprattutto per Fini. Sì, però come diceva ieri Telese, quando la casa brucia che fai? Ti metti a discutere della tappezzeria? No, cioè, cerchi di salvare la casa. Cioè, non riesco, c'è qualcosa nella sua testa che non... Cioè, la testa di chi? Di Fini, c'è qualcosa che ci sfugge, perché secondo me non può rischiare così tanto, quello che rischia è grosso, è tanto lui, Cioè, capisco che uno può non essere d'accordo in linea di principio, però non è che l'ho conosciuto ieri, sono più di 10 anni che sono insieme, Fini e Berlusconi, perché proprio ora? Fammolo alla fine del governo, cioè, portiamo avanti queste riforme. Facciamo vedere al paese che vogliamo fare qualcosa per l'Italia e poi dopo ci scazzottiamo, ma farlo adesso è veramente in un periodo poi cale con la crisi, cioè, ho capito, lei sta dicendo Fini corre un rischio molto alto. Grazie Marco da Verona, buonasera. Intanto Chiara Moroni ve l'ho detto che passa con i finiani, prego Marco. Luciani, buonasera, intanto le do un consiglio, lei potrebbe andare in onda anche in video a mio avviso, ma con la tecnologia, con i videotelefonini potrebbe anche far vedere i suoi radioascoltatori. Ma il mio intervento è sul come si fa pelo. Come si fa a vedere i radioascoltatori, mi scusi? Ma non lo so, col videotelefonino o telefona, si mette in comunicazione con lei e lei in video ovviamente, dico può andare anche in televisione per me. Cioè, si può fare una zanzara televisiva, lei dice? Televisiva e radio... E radio, tutti in, e due insieme. In contemporanea. Ci si è pensato, ma insomma, sono... Troppo difficile. No, insomma, ci sono dei problemi. Dica. Ma due considerazioni. La prima, la ciofeca del terzo polo, perché è paradossale. Per me Fini ha sbagliato completamente i tempi. Stava bene lì, tranquillo, è giovane, il tempo poi è galantuomo, quindi si aspettava il suo tempo, probabilmente avrebbe avuto quello che spera di prendere adesso. L'altro invece fantapolitica, nel senso che chi mi dice che invece Fini e Casini non siano già d'accordo con Berlusconi per fare un gruppetto che possa essere di contrattare la Lega e quindi di potenziare la Lega? Questa mi sembra francamente fantapolitica. Fantapolitica. Sì, quest'ultima mi sembra fantapolitica, insomma mi sembra che il rapporto tra Berlusconi e la Lega, tra Tremonti e la Lega sia molto forte. L'ha detto qualche altro radioascoltatore, per me Fini ha sbagliato i tempi anche perché adesso avremo la ripresa economica a fine anno e Berlusconi ne prenderà tutti i benefici, giustamente. E poi, ancora una volta, il terzo polo, 3-1, si ripropone il solito leitmotiv, tutti contro Berlusconi, ci mettiamo in 3 più l'aggiunto che a Bersani passa fuori Berlusconi, mi sembra che lì abbastanza politica di basso profilo. Bene, grazie. 19:42, Francesco dalla provincia di Firenze, buonasera. Buonasera Cruciani, grazie di avermi dato la possibilità di parlare. Volevo parlare riguardo il motivo del rifiuto di Grillo di venire in trasmissione, facendo un parallelo con... Lei lo conosce il motivo? No, volevo proporre un paragone magari un po' azzardato, però più o meno il motivo è quello. Volevo proporre un paragone con il motivo per cui i rappresentanti della maggioranza non si sono presentati a Bologna in occorrenza del trentennale, insomma, della strage. Sostanzialmente, quindi nessuno avrebbe fischiato Grillo? Beh, lei l'avrebbe preso quasi a pesci in faccia, insomma. Chi ha detto, Francesco, mi scusi, io posso anche non avere, non condividere l'idea di Grillo, come per esempio non condivido quella di Skanderbeg che è intervenuto prima, credo. Senz'altro, ma sicuramente l'intervento... Guardi, il problema è un altro, è che è molto semplice, come ci ha riferito anche ieri Alessandro Giglioli, di Piomo Norane, giornalista dell'Espresso, che Grillo ama confrontarsi con chi è legittimo, naturalmente ama confrontarsi con chi vuole, con chi ha piacere, con chi gli pone magari certe domande, ama i monologhi, non ama molto le interviste magari con qualcuno che non la pensa come lui. Insomma, mi pare tutto nella normalità, non mi pare molto bizzarro. Nostri governanti e la maggioranza, per cui ci sono defilati, secondo me, venendo meno anche i loro doveri di governanti. Ma il paragone non regge, però, mi scusi Francesco, il paragone non regge molto. Vabbè, è quello che volevo proporre. No, il paragone non regge molto, cioè nel senso qui non si rischia nulla venendo qua. Non è una questione di rischio, è una questione di tornaconto, diciamo che Grillo non c'aveva niente da guadagnare, così come i governanti, ad andare a Bologna. Può darsi, questo il paragone, da questo punto di vista il paragone forse regge. Cioè non è, uno sceglie le proprie sedi anche a seconda della convenienza a parlare o no, se gli giova o non gli giova, può darsi, ma credo che non abbia molto stima del sottoscritto, ma non ho problemi con Grillo, non apprezzo molte delle sue battaglie per vari motivi, il modo in cui le pone, eccetera, eccetera, ma non ho problema a ospitarlo, non ho nessun problema a ospitarlo. Grazie! 19:44, 30 secondi, torniamo subito. La Zanzara. Ciao, mi hai riconosciuto? Sono Skanderbeg. Skanderbeg, anch'io conosco già molti di voi, perché al centro della mia politica c'è sempre la gente. Il 28 e 29 marzo, in regione, sono candidato, resta al centro con me e continuerò a lavorare per te con onestà e passione, come ho sempre fatto. Destra, sinistra, non sbagliare mira. Solo con Skanderbeg che puoi fare centro. Quando sigli la scheda elettorale, devi riflettere, non devi sbagliare. Era il meraviglioso appello elettorale di Deodato Skanderbeg. Deodato Skanderbeg. Ogni tanto mi sbaglio ancora, è Skanderbeg. È entrato alla Camera in quota UDC, perché veniva dopo nella lista rispetto a Bietti, e poi adesso subentrato, però iscritto al gruppo PDL. Bene, 800240024, Antonio Borghesi, Italia dei Valori, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Che è successo? Il saluto romano, Berlusconi, leggo delle agenzie, ma no, non ci posso credere. No, ma era un po' una provocazione. No, perché... vabbè, Borghesi, allora mi fa cadere le braccia, lei fa un comunicato in cui dice Berlusconi ha fatto il saluto romano, invece non è vero. No, l'ha fatto, sì, l'ha fatto. Come l'ha e fatto? Proprio lo ha fatto, perché nel momento in cui la sua parte politica lo ha applaudito fortemente, a un certo punto... Ah, è vero, eccolo, lo sto vedendo in questo momento, in questo momento. Non ha fatto il saluto romano, un attimo, Borghesi, prego, io prego. Ho visto le immagini, in realtà non ha fatto il saluto romano, si è messo con il saluto romano e il braccio teso. È il braccio teso. In realtà Berlusconi si è messo. Può darsi che dalla nostra parte sembrasse un po' più teso di come era in realtà. Il suo comunicato però recita in questo modo: il duce Berlusconi ha fatto il saluto romano in aula, offendendo tutto il Parlamento. Bene, ci rivediamo alla riapertura dei lavori alla Camera l'8 settembre. Sì, quindi c'era questa coincidenza della riapertura della Camera l'8 settembre, e siccome l'atteggiamento da Duce, a mio giudizio, ce l'ha e ce l'ha sempre avuto, effettivamente la mano all'alzata, poi se volesse fare il saluto romano questo non lo posso sapere, a noi da dietro è sembrato un po', da una posizione un po' di taglio, è sembrato così, ecco, tutto qui, tutto qui. È sembrato così? È sembrato così. È sembrato così. E se non fosse così? Se non fosse così, chiedo scusa a Berlusconi e a coloro che hanno che ricevono questo mio comunicato. Non ho mai nessun timore a ricredermi e a ripensare sulle cose che faccio. Perché lei dice che se avesse fatto il saluto romano, naturalmente avrebbe offeso tutto il Parlamento. Beh, e su questo le do ragione. Però io ho visto il braccio. Poi sa, sul saluto romano ci sono varie interpretazioni, ce ne sono tanti di saluti romani, no? Certo. Lei sa benissimo che quando si vuole attribuire il saluto romano a qualcuno, e spesso Berlusconi incappa in queste discussioni, in queste polemiche, si prendono magari dei, no, delle inquadrature con una mano, certo, messa così, messa colà, eccetera. Io da quello che ho visto, da vicino però, perché c'era l'inquadratura, magari voi avete visto male, c'è un braccio spostato un po' a destra, un leggermente teso, non mi ha dato l'impressione di un saluto romano, però si poteva anche equivocare, per carità. Ecco, io sono caduto, se era un equivoco, io sono caduto nell'equivoco, ed essendoci la coincidenza dell'8 settembre con la riapertura delle Camere, ha fatto questa buttata che la Lanza lancia in rosso, e dunque il suo obiettivo è raggiunto, perché insomma alla fine la comunicazione politica è che abbia atteggiamenti, vabbè, come quello, dire, un po' dittatoriali, insomma, quello mi fa pare parte che della personaggio, no? Quello fa parte della pubblicistica su Berlusconi da 15 anni, Borghesi, sui paragoni, Mussolini, eccetera eccetera. Va bene, ma sai, io una volta ho costruito per il mio blog un post che era un dialogo tra Berlusconi e Mussolini. E che cosa c'era raccontato? Ma si raccontava di tante questioni, che di tante somiglianze che ci sono tra allora ed oggi, e poi a un certo punto c'era la questione, l'ultima somiglianza, allora Berlusconi si toccava, insomma, vabbè. Berlusconi? Si toccava. E perché Mussolini? Perché Mussolini non è che abbia finito, perché molto non è bene finito. Beh, la certo sua carriera, insomma, ecco. Non è che sia finito in gloria proprio. Bene, grazie Borghesi. Prego, grazie. Diego da Udine, buonasera. Diego, mi sente? Non mi sente. Giancarlo, provincia di Imperia. Buonasera. Dica. Allora, io posso capire il fatto che il gruppo Zini col suo gruppo abbiano formato un altro gruppo, appunto perché espulsi dal partito, in quanto ci sono, come palese, divergenze sostanziali, voglio dire. Una piccola parentesi: quando si proviene da culture diverse, prima o poi i nodi vengono al pettine. E questo l'ha dimostrato diverse volte. Però le voglio segnalare questa cosa della provenienza da culture diverse. Non è che tutta Alleanza Nazionale in blocco sia passata con Fini, tutt'altro. Certo, ci sono esponenti della stessa cultura politica di Fini che sono rimasti con Berlusconi. Per cui, è vero, no, certo. Per correttezza. Quello che invece trovo sconcertante è il voto d'astensione. Ora, io premetto, parlo... ma quello è tatticismo politico. Sì, lo capisco, però capisce, io posso capire un'astensione a livello, se si tratta di questioni politico-programmatiche. Allora, uno non è né totalmente a favore di un certo provvedimento, però neanche contro, non se la sente, e va bene, ci può stare. Ma a livello etico-morale, insomma, voglio dire, io così... sono molto perplesso. Che c'entra però la questione etico-morale? Secondo me non è una posizione chiara, è una, ripeto, una posizione, perché di fronte a una mozione di sfiducia o è sì o è no. O uno pensa che un sottosegretario si debba dimettere, o uno pensa che non si debba dimettere. L'astensione fa parte di, ripeto, di quei tatticismi parlamentari e che non sono, secondo me, un esordio proprio favoloso per un neogruppo in Parlamento. Ma infatti, io appunto, questa è la cosa strana. Ma poi invece, per concludo veramente, penso che senza trionfalismi, senza questo governo, ci sia poi, si aspettava magari il voto di fiducia della settimana scorsa sulla finanziaria, ma un 25 luglio, prima o poi dalle loro fila, arriva, ci sarà un altro Dino Grandi in formato 2010. Lei dice, che ti fa cadere, insomma, questo basta poco, eh. Ah, beh, sì, a questo punto basta un incidente, magari un incidente voluto, eh. Grazie, dove andiamo? Tore Carbonia, che poi sarebbe Salvatore, immagino. Sì, è il diminutivo Tore. Salvatore, allora, Tore non mi piace. Vabbè, Salvatore. No, sto scherzando, infatti, sto scherzando. A me non piace neanche il suo nome, penso un pochino. Vabbè, no, scherzavo naturalmente. Siamo in due che non ci piacciamo, no? Io scherzavo. No, ma la premessa mia infatti è questa. Qual è a la volte premessa? Mi chiedo se lei ci è o ci fa. A proposito di perché, che? A proposito, glielo dica adesso, a proposito di cosa. Perché lei più delle volte, quando c'è qualcosa che tocca in modo particolare o il governo o il presidente del consiglio, tende sempre a minimizzare. Ma quale sarebbe, per esempio? Mi faccio un esempio concreto. L'esempio, per esempio, anche su questa vicenda della mozione di sfiducia fatta al sottosegretario, ma sì. Potrei anche dire. Cioè, mi scusi, che Salvatore, Ottore. Le sue posizioni, mi lascia parlare? Sì, prego. Come quelle, le posizioni, per esempio, quando c'è stato la vicenda Scajola, la vicenda Cosentino. No, veramente lei si sbaglia, perché sulla vicenda Scajola, in parte sulla vicenda Cosentino, io sono sempre stato a favore delle dimissioni, per cui insomma lei proprio sbaglia totalmente obiettivo. Sì, vabbè, io sbaglierò obiettivo. Lei sbaglia obiettivo, dice. La tendenza la conosco. Ma ormai, non c'è, no? Nessuna tendenza, la mia tendenza è tendenza Cruciani. Senta. No, non è tendenza Cruciani. E qual è tendenza che? Veronica, qual è la tendenza? Lei sarebbe sicuramente un giornalista che saprebbe analizzare, come dovrebbe fare un giornalista, questa è la mia opinione ovviamente, sì, del tutto personale, che saprebbe analizzare anche i fatti negativi e i fatti e dunque positivi. Io dovrei arrivare alla conclusione necessaria, secondo lei, che Caliendo si deve dimettere. Se arriva un'altra, se arriva un'altra conclusione, che cosa sono? Venduto a qualcuno? Che cos'è? Opportunità politica e per una questione anche di correttezza. Salvatore, si può discutere sull'opportunità politica. Io penso che Caliendo non si debba dimettere. Nemmeno, e allora ho capito, ma io non sono venduto a qualcuno se lo penso, ha capito? Questo lo deve ancora dimostrare. No, io non devo dimostrare niente a nessuno, Salvatore, abbia pazienza. E tanto meno a me, perché quando si arriva ad andare a passo o a cena o a fare incontri con personaggi che sono personaggi scuri della storia italiana e della politica e della Repubblica italiana, sì, non si può dire non lo sapevo, non sapevo con chi potevo andare, se era Tizio, se era Caglie, se era Semproni, perché chi va in quegli ambienti e non conosce Carboni, non conosce tutti quelli della cricca che lui ha frequentato, non si può dire che non c'è l'opportunità politica di dimettersi, anzi si deve dimettere. Questa è la sua opinione, io rispetto il primo verbo di uno che fa attività politica e quindi attività. Io rispetto la sua opinione, lei rispetti la mia, non mi faccia passare per venduto, però. No, io non le dico venduto. No, lei l'ha detto prima. Se fosse venduto guadagnerebbe anche soldi. Lei l'ha detto prima. No, ho detto non lo so, quindi mi permetta. Allora, il dubbio. Siccome c'è anche siccome in questo paese esiste anche la difesa. Fino a prova contraria, lei naturalmente. Lei fa da difensore. No, io non faccio difensore di nessuno. Le sto riportando. Non faccio difensore di nessuno. Le sto riportando quello che dice Caliendo, perché bisogna ascoltare anche quello che dice Caliendo, non solo quello che dicono i magistrati o che dice l'opposizione o i Finiani. Non ho mai avuto alcuna disinvoltura nei rapporti, perché non ho mai frequentato le persone sbagliate, ma solo Lombardi. Questa è la difesa, naturalmente, che era un incensurato e che non aveva mai dato adito a sospetti. Giacaliendo si dice soddisfatto del voto alla Camera. Non ho mai avuto rapporti con iscritti alla P2 in passato e nega di aver frequentato Carboni. Quando andai a casa di Verdini a pranzo in settembre, non sapevo che ci fosse anche lui. Questa è la difesa di Caliendo, credibile, non credibile. Io credo che per come stanno le cose fino ad oggi non c'è nessun motivo di opportunità politica. Certo, ripeto, questa è la mia opinione. Io non dico che la sua sia sbagliata, Salvatore. Non dico che abbia ragione lei, che ho ragione io e lei ha torto. Dico che lei deve rispettare quello che penso io e io rispetto quello che pensa lei. Vabbè, ma se lei nega anche questo, cosa mi sta dicendo? Cosa allora? Nego? Scusi, cosa nego? Che cosa sto negando? Sono fatti già accertati, indipendentemente quali dalla fatti accertati quali? Quali fatti accertati? Giudizio. Fatti accertati quali? Di aver che gli ho appena detto, se vuole gli ripeto, perché lei in quell'orecchio evidentemente non ci sente. Salvatore, io ho detto che lei deve rispettare quello che penso io rispetto quello che pensa lei. L'ha capito o no questo concetto? Mi sembra che non l'abbia capito molto bene. No, solo che le sto dicendo qual è il suo atteggiamento rispetto alla trasmissione che conduce. Tutto qui. Non ho capito bene, comunque. Ho capito. capito bene io. Ha capito bene lei. Allora se lo tenga per lei, almeno lo facciamo conoscere agli ascoltatori. No, non vuole farlo. Gli ascoltatori sentono qualche voce diversa dalla sua. No, guardi, le voci diverse ce ne sono parecchie in questa trasmissione. Vabbè, a volte tende anche a... Glielo posso assicurare, ci sono tantissime voci in questa trasmissione, non si preoccupi. D'accordo. Grazie. Diego da Udine, se c'è. Sì, sono qua, sono qua. Eccoci, dica. Eccoci. Volevo dire due cose. Prima, una piccola chiosa, Papillo si chiama, che ha detto che gli elettori di centrodestra sono dei morti viventi come il governo. Francamente, insomma, io sono elettore di centrodestra. Ma non so se ha detto questo, sono dei morti viventi. Papillo, se mi ha detto questo, l'espello, No, ha detto sono dei morti civili, perché ingoiano la corruzione al governo senza replicare. Papillo, l'ha espulso Papillo, se ha detto questo. Espulso Papillo, perché non si insultano gli elettori. No, morti civili non è mica insulto. È un insulto, morti, dunque espulso Papillo. Vabbè, morti civili. Espulso Papillo, espulso. Diego, prego, espulso. Ecco. Bene. E la seconda sanzionato cosa è... non avevo nemmeno ascoltato questo passaggio, morti civili, no, che si... ma che significa Papillo? No, ma non sto scherzando adesso. Poi c'è un altro aspetto, questa vicenda del sottosegretario della giustizia. Io vorrei ricordare a chi da centro-sinistra attacca questa situazione che il buon onorevole Clemente Mastella, da ministro, quando cercò di riformare seppur parzialmente la giustizia, fu massacrato sul niente, costretto alle dimissioni sul niente, colpito negli affetti familiari sul niente, per poi risultare che tutto era niente. In un paese in cui si chiedono le dimissioni dei politici, la magistratura deve essere non solo precisa e perfetta, ma allontana anni luce da qualsiasi sospetto di fare attività politica. Siccome purtroppo in questo paese, che è francamente un momentino diverso dagli altri, c'è una magistratura o una parte di essa che fa politica ed è chiaro ed evidente da anni, è altrettanto certo che nessun politico può dimettersi a fronte di un semplice avviso di garanzia o di un'indagine, perché altrimenti diamo la politica nelle mani di quei magistrati che fanno politica ancorché non eletti. Per cui mi sembra banale e di buon senso che ciascuno si rimetta alla Costituzione, che prevede il terzo grado di giudizio, tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio e l'onere della prova spetta agli accusatori. Questo non c'è dubbio, si sta parlando però, Diego, di un'altra cosa, dell'opportunità politica, che secondo me in questo caso tra l'altro non c'è, l'opportunità politica delle dimissioni di Caliendo. Questo è il mio giudizio personale. Finché non emergono fatti più gravi, ancora non c'è l'opportunità di dimissioni. La Zanzara. La 7, titoli. La Camera respinge la mozione di sfiducia a Caliendo, soddisfatto Berlusconi, ma il centrodestra conta meno di 300 no. Anche il polo terzista perde qualche pezzo. La P3 solo fumisteria, aveva detto il ministro Alfano. Dopo gli ultimi fuochi, Parlamento chiuso fino all'8 settembre, ma la resa dei conti sembra solo rinviata. Il Premier minaccia il voto in autunno, con lui schieratissima la Lega. Per le opposizioni ora si volta pagina, ma le elezioni non sono dietro l'angolo. Lo strappo di Fini spariglia anche i sondaggi. Un terzo polo viene accreditato intorno al 20%, ma l'ex leader di AN, non più presidente della Camera, può valere meno e schierarsi contro Berlusconi potrebbe non giovargli. Ecco le nuove immagini dell'appartamento monegasco venduto da Alleanza Nazionale, oggi abitato dal fratello della compagna di Fini. È battaglia legale con il giornale di Feltri. Assunta Almirante smentisce di aver dubitato dell'onestà di Fini. Mondiali di nuoto di Roma 2009, citate in giudizio per abusivismo, 33 persone sotto sequestro, finiscono noti circoli sportivi e piscine della capitale. Tra le persone coinvolte, l'ex commissario straordinario dell'evento Claudio Rinaldi e il capo della cricca Angelo Balducci. Rapinatori in azione a Napoli, clienti presi in ostaggio e fatti inginocchiare, pistola alla tempia, tutto ripreso dalle telecamere, acciuffati quasi subito i malviventi. Dopo 40 anni la Ferrari apre al pubblico le porte di Fiorano, il circuito sul quale da sempre provano le monoposto di Maranello, per gli appassionati anche la possibilità di percorrere il tracciato a bordo di un pullman. Bene, 22 minuti, Blob, Impero Nano. Sono affermazioni che interpreto come lesive della mia dignità. A mio marito e all'uomo pubblico chiedo pubbliche scuse, non avendone ricevute privatamente, e con l'occasione chiedo anche se, come il personaggio di Catherine Dunn, debba considerarmi la metà di niente. Ho sempre considerato le conseguenze che le mie eventuali prese di posizione avrebbero potuto generare a carico di mio marito. Questa linea di condotta incontra un unico limite, La mia dignità di donna, che deve costituire anche un esempio per i figli. Oggi, nei confronti delle mie figlie femmine, ormai adulte, l'esempio di donna capace di tutelare la propria dignità nei rapporti con gli uomini assume un'importanza particolarmente pregnante, almeno tanto quanto l'esempio di madre capace di amore materno che mi dicono rappresento per loro. Edoardo da Trieste, buonasera. Io desideravo sottolineare l'intervento fatto sull'onorevole Borghesi. Io non lo conosco, sono un cittadino comune, però il fatto che abbia dichiarato quello che ha dichiarato mi ha fatto un po' di tristezza, in quanto con questa dichiarazione, sapendo bene che mille smentite non valgono una dichiarazione, lui ha fuorviato le mie opinioni su determinate situazioni di carattere politico, su Berlusconi stesso. Cioè, quindi mi scusi, ora no, il fatto no, di fare delle smentite o dire che l'angolazione era diversa mi fa ancora più tristezza, perché comunque sembra veramente che è un arrampicamento per gli specchi. Ecco, se ha la possibilità di farmi sentire anche un commento di qualche suo esperto mi farebbe piacere. Esperto su che cosa, mi scusi? Ma non so, sull'argomento in generale. Insomma, qual è l'argomento? Io non ho capito, diciamo, qual è l'argomento. Diciamo un opinionista. No, mi scusi Edoardo, qui non c'è argomento, perché si trattasi evidentemente di un motivo, di una questione sollevata da Borghesi senza fondamento. Spesso si fanno dichiarazioni per uscire sulle agenzie e poi magari per essere chiamati alla radio, come abbiamo fatto. Vai a recuperare le piume sparse dal vento. Va bene, ok, tutto qua, non avrei altro da dire. No, grazie. Ma ho capito, non ho capito quello che ha detto lei, cioè, che cosa vorrebbe, un esperto su che cosa? No, se lei non ce l'ha l'esperto, se non ma ha su che cosa? Che può, ma che su può che... dichiarare che se quello che ho detto io corrisponde un po' a una cosa, a qualche cosa di importante, di ragionevole, oppure se solamente la mia opinione, così che la... No, ma non ho capito bene qual è la sua opinione, però. La mia opinione è che mille smentite non valgono una dichiarazione, ed è grave che un onorevole abbia fatto una dichiarazione di quel tipo, così pesante, e poi la smentisca sulla radio oppure alla festa del patronale, che ne so, qualche altra. No, ho capito benissimo, Edoardo. Anche secondo me è abbastanza ridicolo il fatto che uno fa una dichiarazione e poi la smentisce dopo dicendo, beh, se non fosse vero, beh, insomma, però la dichiarazione presupponeva che Berlusconi davvero avesse fatto il saluto romano in Parlamento. Alberto da Verona, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io volevo intervenire riguardo alle ipotesi di governo tecnico sentite addirittura da Grillo. Diciamo che come mia opinione mi viene l'orticaria solo se sento parlare di governo tecnico con qualsiasi esperto alla guida, perché un governo deve essere un'espressione eminentemente politica, però la cosa che mi lascia anche perplesso è la contraddizione di chi propone un governo tecnico e critica l'attuale esecutivo come un partito azienda e dice che il Presidente del Consiglio si comporta da amministratore delegato. Trovo una contraddizione fortissima nel chiedere un governo tecnico, quindi svincolato dal voto, e poi dare queste critiche invece al governo in carica. Non ho capito, Alberto. No, nel senso che un governo tecnico di fatto ha una gestione aziendalistica del paese, si accusa il governo in carica di avere una gestione aziendalistica del paese, chi propone il governo tecnico è contro questo governo e muove questa accusa, mi sembra che si contraddica da solo. Beh sì, un po' di contraddizione c'è tra chi vuole il governo tecnico e poi accusa Berlusconi di guidare il paese come un'azienda, di voler guidare il paese come un'azienda. La ringrazio, Alberto. Cristoforo da Novara, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire, meno io penso questo, magari si fa per caso pensare male. Non vorrei che tutta questa sceneggiata, tutto questo teatrino politico abbia poi il fine di, diciamo, allontanare il più possibile l'attuazione del federalismo. Ma non lo so, Cristoforo, francamente mi dispiacerebbe, sa perché? Perché io penso sia la medicina. Beh, una delle motivazioni portate avanti da Fini per nei giorni del contrasto con Berlusconi era appunto una svolta su una valutazione attenta sui rischi del federalismo, sui costi del federalismo, eccetera, eccetera. Dunque, sicuramente questa vicenda c'è, ma io la interpreterei in chiave politica, insomma, cioè in chiave antileghista più che nel merito e nei contenuti del federalismo, no? Il fatto che tanta gente pensi che il federalismo sia un qualcosa legato al razzismo o a uno scontro nord e sud. Ma perché? secondo me razzismo non lo pensa, razzismo non lo pensa nessuno. Sa cosa penso io? Che forse sarebbe uno scontro viso a viso contro i parassiti, ma classi dirigenti alte, no? Cristoforo, diciamo un federalismo fatto con coscienza è fatto bene. È ovvio che qualsiasi, io ad esempio non sono né di destra né di sinistra, voto chi penso sia meglio, perché secondo me sia la destra sia la sinistra sono due scuole di pensiero valide. Poi sono i dirigenti, sono i responsabili che portano avanti i partiti e la politica che, se non sono, diciamo, sinceri e leali, portano poi la disfatta sia a destra sia a sinistra. Va bene, grazie. Pubblicità. Prego. La Zanzara. Siamo qui 20 11 800 24 00 24. Paola, provincia di Venezia, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo dire due parole semplicemente, l'ascolto spesso e quindi conosco un po' il tono della trasmissione. Io semplicemente volevo dire che, a mio parere, tutte queste beghe politiche, tutte queste cose nascondono di fondo un unico motivo, che è una miseria, nel vero senso della parola, delle capacità politiche delle persone che sono state purtroppo elette, purtroppo nel senso perché non le abbiamo potute scegliere, quindi sono state messe lì e non nominate. Sì, nominate, mi faccia, esatto, un esempio, Paolo. Per esempio, Paola, la miseria di questa sera, secondo lei, dove si è? Ma la miseria, dove è venuta fuori? Tutto questo discorso, fini, non fini, questi leghisti che vengono fuori arrabbiatissimi e dopo alla fine votano tutte queste leggi a favore di quello. Guardi, io glielo dico perché non sono né di destra né di sinistra, non mi interessa assolutamente, però seguo sicuramente le vicende del mio paese. Sono una persona appassionata nelle sue cose, per cui vedere buttate via le risorse per queste cose mi fa incavolare. Ma risorse per che cosa? Non ho capito. No, le risorse, semplicemente la politica ha anche un costo che io pago come cittadino. E vedere le mie risorse sudate, tra virgolette, perché ogni giorno sono al lavoro e non sì, ma buttate via, che vuol dire, Paola? Buttate, vuol dire che un politico ha delle responsabilità, deve anche dimostrare di sapere, diciamo, tramutare in qualcosa di reale quelle che sono promesse elettorali, quelle che sono queste cose tanto, diciamo, cantate, tanto citate su tutti i giornali, eccetera, eccetera. E alla fine, in realtà, non si stringe niente, non diventano un niente, il paese è perfettamente immobile, sono distanti anni luce dalla vita reale delle persone, e dico io, e dopo tutte queste, come potrei dire, piccole lotte, queste cose, altro non servono che a mantenere immobile il paese e non farlo muovere da quello che è. Ho capito. Perché far finta, e cosa ci vuole allora, tutto, Paola, cosa ci vuole? Non cambi niente, ed è quello che sta succedendo in Italia. E cosa là ci vuole allora? Che cosa ci vuole? Ci vogliono persone motivate, ci vogliono persone vere, ci vuole, basta con questi quattro, come potrei dirle io, non lo so, ma sembrano delle mummie, sembrano, non lo so, non sono distanti da noi, non c'entrano più niente. Ma guardi che questo si ripercuote non solo a Roma, tra virgolette, ma può andare anche in un qualsiasi... Però mi scusi Paola, mi sembra un po' troppo generica questa cosa, basta con questi quattro, eccetera. Questi quattro chi? Cioè, lei mi indichi qualcuno? Chi è secondo lei l'immagine, la fotografia dell'immobilismo in Italia? Chi è? Ma ha visto il Parlamento? Ma ho capito, ma così è generico, in Parlamento ci sono anche delle brave persone, che significa? Sì, ha visto il Parlamento, che significa? Pochino, ma guardi un pochino che cosa stringono quando è sera, le cose vere che fanno, e cosa è cambiato nella mia vita. Io lavoro da 25 anni, glielo dico, e da 25 anni non cosa è cambiato. Fa lei? Cosa fa io lei? Sono impiegata, sono una semplice impiegata, non ho niente di che, però... Impiegata nel privato? Sì, naturalmente. Lei dice da 25 anni a questa parte, da 25 anni a questa parte non è cambiato niente nella mia vita, cioè i politici non sono riusciti a incidere nella mia vita più di tanto. No, assolutamente, io pago le tasse sempre. Per esempio, su volta, che cosa? I trasporti sono gli stessi, per esempio. Mi faccio un esempio, se no non capisco, mi scusi, insisto. No, io insisto, che cos'è che non è cambiato? Mi spieghi bene, dice non è cambiato niente nella mia vita, cosa? Non è cambiato niente, per esempio. Ah, ricordate Zalone? Un attimo solo, Paola, ricordate? E furono sospiri. Per cortesia, fallo per me. Sono altri 1.000 euro se ti giri. Durò tutta la notte questa cotta. adesso fai una doccia, poi un'altra volta. Adesso invece arriva la parte volgare. Signor principe, gradisca. E ora passiamo ai voti, prego i colleghi di prendere posto. Bene, 20 e 15, 800 24 0024. Paola, sì. Cosa non è cambiato nella sua vita? Non è cambiato niente, nel senso che... Ma non è possibile, 25 anni qualcosa sarà cambiato. Sì, beh, logico, nella mia vita, però... Ma no, nella sua vita privata, nella sua vita, nella società, nella... Sì, indubbiamente ho cambiato posti di lavoro, tutto quanto quello, però voglio dire... Stringendo, cos'è che la politica non ha risolto? Cos'è che la politica non ha risolto? Le promesse, se io guardo quelle che facevano quando avevo 20 anni, sono esattamente le stesse di adesso. Cioè le cose promettono sempre le stesse cose, fanno di tutto perché non cambia assolutamente nulla. È quello il problema. Siamo ancora qui, che stiamo ancora discutendo su argomenti vecchi, su cose che non c'entrano. Mi vanno a tirar fuori valori fondamentali. Cioè, sì Paola, però lei mi è generica, non mi dovrebbe entrare più nel dettaglio. Cioè, cos'è una promessa che non hanno mantenuto? Che ne so, mi faccio un esempio. Ma guardi, se ne possono prendere a centinaia. Che ne però, so, l'abolizione delle province, che ne so. Ma è per esempio quella, ma ne può anche, non so, parlo per esempio, io abito nel profondo Veneto, per cui so bene cosa ha voluto dire la Lega dalla sua nascita, le cose, allora... che cosa ha promesso, eccetera, eccetera. In 20 anni, perché ormai sono 20 anni, sì, che questi predicano le stesse cose, nella vita delle persone che abitano qui non è cambiato nulla, non è cambiato, perché a livello, le parlo una cosa semplice, per esempio la piccola criminalità, i posti di lavoro che non si trovano, e le parlo del ricco Veneto, non le parlo di altri posti, i problemi che... Cioè i fondamentali non sono cambiati. Non si toccano. Va bene Paola, grazie. 20:17, traffico, devo dare la linea al traffico. La Zanzara. Bene, di 20:18, 800 24 0024. Dove andiamo? Direi Paolo, provincia di Rimini, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire che io sono un elettore del centrodestra e onestamente mi sono stancato di essere considerato un cretino, un demente, un morto civile, un morto politico. Papillo, questo è per lei, Papillo. Ecco. Perché votiamo Berlusconi? Papillo. Giuseppe, mi hai messo qua appeso, dammi 2 minuti, 120 secondi almeno. Ho capito Papillo, però... Lo so, ma se mi fai rispondere... Ma poi dai, dei morti civili alle persone. Se mi fai argomentare, perché sennò io ti ringrazio dell'ospitalità. Però se non posso argomentare, Adesso argomenterai, però va bene, grazie. Se uno dà del morto civile a qualcuno, ascolta Giuseppe, se mi dai la possibilità di argomentare io argomento, se no se mi chiudi, no, e chi chiude? Appeso qua, ma tu lo sai che non chiudo io, non chiudo, ti lascio parlare tranquillamente. Paolo, prego. Quello che ha detto il signore, che io non ho sentito bene, è ormai una cosa che va avanti da 20 anni, da 15 anni. Cioè, noi che votiamo Berlusconi siamo tutti dei deficienti, che lui è il caimano, va con le donne, eccetera, eccetera, siamo tutti dei cretini. Invece assolutamente non penso che sia così. Io voto convinto Berlusconi, vedo i suoi limiti, però finché c'è un Parlamento, un'opposizione che molte volte fa politica, invece che criticare Berlusconi, molte volte sulle chiacchiere, Berlusconi ha dei problemi, non ha mantenuto determinate promesse, ma quando sento quell'onorevole dell'Italia dei Valori, invece che pensare al Ducetto Di Pietro, che è uscito dalla magistratura, è entrato in politica per coprire le sue magagne, e parla di Berlusconi, Ducetto, che pensa al suo partito, invece che criticare Berlusconi... No, adesso non entriamo nel merito di Di Pietro, eccetera. Certo, ripeto, prendersela con Berlusconi, perché forse ha fatto il saluto romano alla Camera, anzi sicuramente non l'ha fatto, perché poi ho visto bene le immagini, mi è sembrata una dichiarazione un po' avventata da parte dell'onorevole Borghesi. Grazie Paolo, introduco quest'ospite in questo modo. E adesso siediti su quella seggiola. Strappiamo qualche minuto all'onorevole Frassinetti, buonasera. Buonasera. Senta, riferiscono le cronache che lei, che era ospite nella villa di Tor Crescenza di Berlusconi l'altra sera, insieme, ieri sera, insieme sì. ad altre deputate, sì. l'hanno chiamata la seconda tornata di deputate, si sia messa a un certo punto a cantare questa canzone, o sbaglio? Ma dunque, io ho cantato una canzone perché mi piace cantare a un certo punto. Certo, lo sappiamo, lei ha partecipato anche esatto. alla nostra gara. Ma certo. non capisco perché tutto intorno a questa canzone poi è stato detto che io ho cambiato delle parole, ma sinceramente me ne sono accorta. A me piace Cocciante e Battisti, che sono i miei cantanti preferiti. Certo. Ho fatto una strofa così perché, diciamo, anche per sdrammatizzare. E la strofa qual era? Ma adesso siediti su quella seggiola, questa qua, insomma, un bello senza anima. Però qualcuno ha scritto, sì. e lei lo smentirà, che questa strofa è stata rivisitata per adattarla al momento politico. Adesso alzati da quella seggiola. Ma ecco, io alzati non mi ricordo di averlo detto. Comunque, se vogliamo usare delle canzoni per sdrammatizzare questo momento politico, in effetti Berlusconi potrebbe anche dire come due persone che si lasciano, vivere insieme a te è stato inutile, e Finili potrebbe anche rispondere: vado, questa volta ho deciso che vado. Però tutto questo scherzando un po' per sdrammatizzare, con rispetto massimo che io ho sia per il Presidente della Camera che per il Presidente del Consiglio. Dunque, ecco. Adesso alzati da quella seggiola, com'è che farebbe la strofa? Adesso alzati, cantiamola insieme. Adesso, no, allora io dico siediti, perché ripeto, non ho detto altri. Comunque sarebbe adesso siediti su quella seggiola, ascoltami senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile. Tu senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere, né da dividere, nella tua trappola ci sono caduto anch'io. Avanti il prossimo, che qui poi su chi sarà il prossimo non si sa. Ah, beh, il prossimo non si sa. Le lascio il posto. Tutto qua mi sembrava scherzoso, ma non ho mai cioè, non so come mai sia uscita sta cosa. Ecco. Beh, qualcosa di vero ci sarà, però. Non è vero, un'invenzione totale così, addirittura il cambiamento della strofa mi sembra strano. No, io non ho cambiato la strofa. Comunque, no. Non mi sembra che questo sia un argomento per fortuna, per scherzare un po', appunto. Ripeto, assolutamente. Ma chi ha cantato ieri, poi? Chi potrebbe dire, per difendere anche Che Fini, potrebbe dire? Vado, questa volta ho deciso che vado. Senta, chi ha cantato ieri sera, poi? No, ha cantato, c'era la... c'erano delle cantanti che hanno cantato delle canzoni, hanno cantato I migliori anni della nostra vita, un'altra canzone, due o tre canzoni, ma poi... Ma cantanti chi? Ma erano delle cantanti, io i nomi non li so, però so che... Reclutate per all'uopo, insomma. Ma sì, c'erano già state anche una cena di Natale, quindi evidentemente sono cantanti... Italiane, sì. Hanno... una bellissima voce, poi dopo lì è stato un piccolo momento, poi dopo c'è stata una discussione politica dove il Presidente ha voluto un po' sapere qual era il nostro parere sulla situazione. Sì. Senta, ma è vero che ha cantato anche Alessandro Mussolini? Sì, una canzone, però io non conosco il napoletano, quindi che ha cantato? Che ha cantato? Ha cantato in napoletano, ma non era una canzone famosa, era una canzone napoletana. Io non capisco il napoletano e non mi piace nemmeno tanto la canzone napoletana, quindi non sono fuori, sono out. Io non le piace la canzone napoletana, che è un po', insomma, no, è la canzone piace, del presidente. Non ho capito. Io sono sul Revival anni 70. Ecco, ho capito. Senta, il bracciale e l'anello, è vero? Cioè, Berlusconi lo fa sempre, per carità. Cosa vi ha regalato, così, per curiosità? Ma ha regalato un braccialettino e un anellino, niente di che. Niente di che. Carini, belli. Saranno, insomma, avranno il loro valore, ma se ha fatto questo regalo avranno il loro valore. Ma sì, sicuramente sono siccome lei ha detto niente di che, insomma. No, niente di che, nel senso che detta come era oggi dai giornali sembrava che fosse chissà che cosa. Non lo so, io poi una cosa molto fine, sobria, ecco. Sobria. Molto, oro molto, bianco molto. Mi sembra, no, o sbaglio? No, sa che io penso, non so se fossero tutti uguali, o non ho guardato, sinceramente. Vabbè, le segnalo che lei nella nostra gara se la sta battendo comunque, insomma, lo so, so che è informata, adesso non faccio la gnorri. Io ero al 7% ieri mattina, oggi, non mi ricordo più, perché qua... Cambiano le cose in un attimo, poi ci sono le cordate, secondo me, perché francamente le faccio ascoltare adesso una cosa. Oggi Barbato se la tirava un po', transatlantico. Beh, guardi, lei è al 7%, ma le faccio sentire Barbato, forse l'avrà già sentito sul nostro sito, è una roba... l'alta marea. Ma è una roba, io non ci posso credere, che secondo me lì ci sono o delle cordate oppure un effetto oppure passa tutto il tempo a dire agli amici che devono votarlo. Devo dire che io no, vabbè, giustamente sincera, Barbato, lo faccio ascoltare. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera. Nasce l'aurora, tu sei dentro di me. Tu sei dentro di me. Come l'alta marea. Insomma, onorevole Frassinetti, agghiacciante tutto ciò. È difficile sta canzone comunque. Sì, è difficile, ma insomma, adesso voglio dire, magari mi sbaglio io, non sono un grande esperto, però insomma, mi sembra 29%, 24% il senatore Dragna, eccetera, eccetera. Grazie, grazie, buona serata. Buona serata, scusa, grazie. Ho passato una moto. Arrivederci. Abbiamo sentito. Papillo, Papillo, replichi. Devo replicare a deputata Canterina? No, che lasci perdere. Non mi tocchi i deputati Canterini, Papillo. Tocchi tutti, tranne i deputati Canterini. Lasciamo stare, va. Allora, guarda, non mi faccia il serio, non si prenda troppo sul serio pure lei, Papillo. No, io non mi prendo mai. Guardi, se uno analizza la situazione italiana, non è che c'è molto da ridere. Poi dipende, magari alcune categorie di persone si possono permettere il lusso di ridere, fare baccanali. Vabbè, dia la spiegazione all'ascoltatore di prima sulla cortesemente sui morti civili, elettori di centrodestra, morti civili. No, lei mi deve essere sintetico. È sintetico, se mi interrompi non riesco neanche a essere sintetico. Allora, semplicemente questi elettori del centrodestra dimenticano che avrebbero un presidente del Consiglio condannato per corruzione se non si fosse fatto le leggi per non farsi processare. Dimenticano che ogni giorno esponenti del PDL, l'ultimo è stato ieri all'Aquila, l'altro ieri, vengono arrestati o vengono inquisiti. Se poi uno può E allora? Che loro continuano a ingoiare merda, il problema è che la fanno ingoiare anche agli altri. Vabbè, Papillo. Anche chi non vuole. Va bene, ho capito. Questa è la sua spiegazione. Noi chiudiamo questa sera in questo modo. A domani, 18, con la Zanzara. Quando sigli la scheda elettorale, devi riflettere, non devi sbagliare. Se stai cercando coerenza ed onestà per te, mira bene e segna, scandere back. I valori, lo sai, non sono in vendita, servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene, gente, è il momento. Giovani, anziani, siete stupidi, state al centro. Al centro con scandere back ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza, edizione, qui troverai un futuro migliore. Al centro con scandere back ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza, edizione, qui troverai un futuro migliore. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate. Radio 24. La passione si sente.